se Grillo vuol far politica, fondi un partito, metta in piedi un'organizzazione, si presenti all'elezione, vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Bisticciare PDL e PD-L, ma poi sono d'accordo con tutto sulla cementificazione che avete qua davanti. Ci sono le coprose e c'è l'impregilo. Sulla TAV ci sono tutti e due. Sul conflitto di interessi vanno d'accordo. Sulla nucleare vanno d'accordo. Fanno tutte queste cazzo di manfrine. Hanno già deciso tutto. Bisticciano in Parlamento, poi vanno a farsi due bucatini alla matriciana. Insieme. Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! Sono morti, non bisogna neanche parlarne, è vilipendio a cadavere! Pinocchio di tutte le favole, che il grillo parlante non lo applaudirà. Scrive Grillo qualche minuto fa, poi uno può contestare, può dire che è una follia, può dire che si va nel baratro, può dire che si va al disastro, che è colpa sua, però l'avete sentito anche adesso, lo diceva prima durante la campagna elettorale. Se avete votato 5 Stelle, e questo è rivolto non tanto agli elettori quanto a quelli che adesso si pongono i problemi, no, esistenziali là alla Camera e al Senato, quelli che dicono: ma che dobbiamo fare adesso? Perché non possiamo provare magari con Bersani o con qualcun altro? Diamo un contributo. I problemi esistenziali, gente che piange, gente che si divide. Ecco, a questi è rivolta la cosa. Grillo dice: se avete votato 5 Stelle, se avete votato 5 Stelle per fare l'accordo col PD, in sintesi è: votate la prossima volta per un altro partito. Dai, adesso criticami, Parenzo, criticami, su, criticami. Criticami. Ma dove cazzo sei? Ma dove sei? Oh! Criticami, dai, criticami per questo. Ma hai sentito o no? Sì, vabbè, De Luca, vai, mandami De Luca che è il numero uno, va. Vai al diavolo, va. Allora qualcuno dovrà dire che non è possibile che in un paese serio ci sia uno che si fa le ferie nella villa di montagna. In questo momento sta con il panzone al sole nella villa al mare, a Marina di Bibbona in Toscana. Poi si mette gli occhialini Ray-Ban a specchio e va a fare le consultazioni. Oi, ma che stiamo al teatro, al circo equo, ma falla finire, la rete, tutte queste palle. È sempre il numero uno! Il mio idolo assoluto, Enzo De Luca. Se non metti a posto quel telefono, vengo là e ti prendo a bastonate. Hello, I arrive in Italy. Ma io me ne fotto, People want to work. Ma io me ne fotto, fammi fare la trasmissione e non mi rompere le scatole. Vogliamo ricordare gli altri De Luca di questi giorni, numero uno totale, numero uno assoluto. Lombardi. Ma ho visto queste immagini con la delegazione dei 5 Stelle, con la capogruppo alla Camera, quella signorina, e il capogruppo al Senato, quel signore improbabile. Io avrei retto 10 secondi con quella signorina lì, 10 secondi, per il livello di supponenza, di presunzione che ha questa tipa che fa il capo. Guardi, è una cosa intollerabile. Cioè, questa che si presenta come se fosse un premio Nobel, come se fosse Rita Levi Montalcini. Ehi! Ma bambole, ammazza e vattene. E beh, forse un leader, per carità, poi la politica è fatta di mille accorgimenti, dovrebbe rispondere proprio così quando uno gli, quando quel capogruppo del 5 Stelle gli dice scusi ma noi a Ballarò eccetera, ma vammo riammazzata, va. Dice De Luca, sindaco di Salerno, Partito Democratico, non è che lo dico io, lo dice De Luca, sindaco di Salerno, PD. Vabbè, ha parlato Renzi, va, ha parlato Renzi, però caro Renzi, quando uno parla cioè, almeno una cosa compiuta, una cosa così che abbia un ma minimo. Ma dove ha parlato? Ad amici? Ma no, ad amici, no, no, certo. Non credo che sia roba di amici perché va in onda il 6 aprile, amici. Ah. No, dice stiamo perdendo tempo. Beh, non c'era bisogno di Renzi per capirlo, devo ammettere, stiamo perdendo tempo con i saggi. È chiaro che stiamo perdendo tempo, però vabbè, Renzi. Noi oggi viviamo un momento nel quale ricordiamo i 120 anni e viviamo una situazione politica e istituzionale in cui stiamo perdendo tempo. È un paradosso ricordare 120 anni. Ho capito, Renzi, stiamo perdendo tempo. Non ci voleva, per carità, il signor Matteo Renzi. Capisco che no. È difficile introdurre, mettersi a discutere di cose interne al Partito Democratico. Però, insomma, qualcosa di più originale magari, no? Abbiamo già un ospite pronto, caro Parenzo, mentre tu sei sulla navetta che ti riporta dall'aereo alla... No, sto facendo il controllo passaporti. Vabbè, ma questo è un dettaglio che non ci interessa. No, tutto devi sapere. Sant'Anché, sì, vabbè, fai il controllo passaporti. Grazie. Sì, prego, prego. I arrive in Europe now. Sì, Sant'Anché. Tu lo sapevi che la Sant'Anché voleva le suore che dicono la messa? Sì, questo l'avevo sentito, perché ho visto un sacco di tweet su questo argomento, per la verità. Ma che hai sentito? Non hai sentito niente? Non lo sapevo. Io non lo sapevo, dunque se non lo sapevo io sicuramente non lo potevi sapere tu. Io mi occupo di minuzie. Sant'Anché. Io credo che questo Papa magari porterà avanti quello che io ci tengo moltissimo e faccio una battaglia, ho scritto anche un libro su questo, perché le suore non possono dire la messa. Sarebbe una grande rivoluzione di Papa Francesco, perché sarebbe una bella cosa, lo dico al di là di etichette politiche o partitiche. Bah. Siamo qui 800 24 00 24 con Chicco Testa, buonasera. Buonasera. Come sta grande caro festa. Testa. Parenzo sta arrivando, io sto partendo, sto aspettando. Dove sei, Chicco? A Trieste, bellissima Trieste. A fare qualche bellissimo reattore nucleare, bravo. Perché qualche bellissimo reattore nucleare? Non si possono fare i reattori nucleari in Italia, purtroppo. Bisogna farli ovunque, ha ragione Testa, il nucleare è vita. Sì, lo sai, te lo ricordi che disse da noi Zichichi, no? Il mitico Zichichi. Voleva riempire la Sicilia di centrali nucleari. Certo. Sì, che godeva, che era felice se la Sicilia fosse stata piena di centrali nucleari. Diciamo, Crocetta si arrabbiò un tantinello. Ma Zichichi resta corretto, non è che uno ha scelto Zichichi per poi fargli dire che è contro il nucleare. Comunque ti segnalo che oggi c'è uno studio della NASA pubblicato, sì, il quale dice che l'energia nucleare ha salvato 2 milioni di persone che non sono morte a causa dell'inquinamento dei combustibili fossili. E contemporaneamente c'è un'altra notizia, sì, 1 milione di persone circa muore in Cina a causa dell'inquinamento da combustibili fossili. Quindi le due cose si tengono, ma insomma lasciamo stare. Cioè il nucleare salva vite umane, questo vuol dire tu. Adesso è passata sta storia in Italia. Anche perché tu hai qualcosa da farti rimproverare per certe frasi dette nei dintorni di Fukushima, esatto. Di Fukushima, tutto ok, sì, esatto, è tutto okay. Esatto. Ecco, ma alla fine si può dire che ci sia stata qualche esagerazione nei morti in tutta la tragedia nucleare? Sono usciti i primi studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sì? A parte un paio di persone che ahimè purtroppo sono annegate dentro la centrale. Un paio? Sì. Cioè, sono morte 20.000 persone nello tsunami, sì, bisogna sì, ricordarlo, lo perché tsunami, non sembra sì, che sia successo solo Fukushima. Sì. Nella centrale c'è stata un'inondazione e un paio di persone hanno perso la vita, come hanno perso tante altre nelle fabbriche, eccetera, eccetera. A parte questo, lo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non rileva nessun rischio per la popolazione circostante. Cioè tutto a posto adesso? Sono studi pubblicati, si possono leggere su Nature, su Lancet, sulle riviste internazionali. Per cui abbiamo chi ha voglia di leggere. Abbiamo sentito un sacco di cazzate fino adesso. Molte, di sicuro. Allora, l'Italia in mano a Grillo cosa diventerebbe, Chicco Testa? Lei che è uno storico nemico di Grillo da tempi ormai, dai tempi dell'Enel, insomma, no? Evidentemente un disastro. Disastro se, addirittura. È un disastro, anche se non c'è dubbio che la vittoria di Grillo è un segno profondissimo del fallimento della classe politica italiana. Ma lei alla fine che ha votato? Io ho votato Monti. Ma come? Lei non aveva sempre votato a sinistra o no? Ho votato a sinistra, ho votato per i radicali, questa volta ho votato Monti. Monti, ma lei tornerebbe a votare a sinistra a che condizioni? A sinistra, insomma, il PD diciamo, no? Per esempio, se Matteo Renzi fosse il leader, per dare una risposta secca. Cioè, lei, per esempio, Renzi l'ha votato alle primarie. Esatto. E poi invece non ha votato. Uno di quelli che ha fatto rimanere il PD ancorato a quel 25-26%. Questo è il punto. Vabbè, ancorato. Se fosse rimasto ancorato ai voti che c'erano, il PD avrebbe ben di più del 25%. Ah, vabbè, lei pensa al 33 di Veltroni. No, penso ai 4 milioni di voti che si sono persi rispetto alle precedenti elezioni. Senta, quando vede Bersani parlare con i grillini in quello streaming terrificante, a cosa pensa? No, penso che io purtroppo non reggerei neanche 5 minuti perché sono caratterialmente un irrequieto. Cioè avrebbe preso a schiaffi la Lombardi? A schiaffi no, però insomma un sano, diciamo, ecco, come quella parola che ha sdoganato Grillo, si poteva anche usare. Un sano vaffanculo, un sano vaffa. Alla... Dopodiché apprezzo la grande pazienza, tenacia e di comportazione di Bersani. Traffico, torniamo subito, 18:46, Parenzo ci sei oppure ci sono anche i cani lupo che ti stanno inseguendo perché hai portato il solito tuo fumo hashish dal Medio Oriente? No, non porto fumo all'estero, lo compro sul territorio locale. Ah, ecco, ma sono al nastro numero 7, atterrato da poco dalla mitica città di Tel Aviv, la scienza, la tecnologia, non ci sono questi imbecilli alla Grillo. C'è un paese serio, Israele, dove non c'è tempo per comici. Ma la droga è legalizzata? Sì, si può fumarsi le canne, è un paese serio. Questo bisogna vedere. Ancora un De Luca, vi prego, e mi fa godere. Ancora un De Luca, io godo. Scusi, Testa, facciamo una petizione per fare De Luca leader del Partito Democratico. Ma lei lo sente che spettacolo assoluto? Beh, cioè, De Luca è un sindaco molto apprezzato dei suoi concittadini, ha fatto molte cose notevoli. Ma lo vede come si affrontano i grillini così con le corna, non là. Sì, è vero, come dice lei, con pazienza, mettendosi al tavolo, eccetera. Ma questo corteggiamento dei grillini non è un po' un'umiliazione per il Paese? Forse il linguaggio di De Luca è eccessivo, però io penso un tantinello. Comunque siamo arrivati veramente a un punto di svolta. Qualcuno in questo Paese ha il coraggio di una battaglia frontale per spiegare che cosa serve a questo Paese, come si fa a ridare lavoro, a crescere, a investire. Ma fosse per lei si farebbe l'accordo PD-PDL domani mattina? Bisognerebbe fare? Non mi faccio entrare in queste questioni. Basterebbe guardare le tre cose fondamentali che bisogna fare. Ma non entri in queste questioni, sennò altrimenti che stiamo a fare qui? PD-PDL scelta civica, no? O no? Io penso che in questo momento questo accordo andrebbe fatto molto fortemente su 3-4 cose da fare al volo. Allora, sondaggio della Ghisleri, sondaggio shock della Ghisleri. Renzi vola, Grillo cioè con Renzi in campo, Berlusconi meno 10 punti, Grillo meno 15 punti. Sarà vero? Secondo me sì, un po', magari non su queste. Io credo che c'è un sacco di gente che si mangia le mani per non aver votato Renzi alle primarie. Senta, ma mi dica una cosa, il programma economico di Grillo è una roba che non inguardabile. Ma che non sta né cielo né in terra. Cioè, in che senso? Ma nel senso che è un programma che probabilmente moltiplica per 2 il numero dei disoccupati in Italia. Addirittura? 4-8. Beh sì, assolutamente. D'altra parte è bastata una settimana di vittoria loro per vedere cosa è successo. Una serie di opere pubbliche, quelle poche che ancora si facevano in Italia, pubbliche e private, immediatamente bloccate. Crocetta, che in Sicilia se la fa sotto e cancella qualsiasi cosa, compreso persino i cavi di collegamento tra la Sicilia e e Reggio Calabria per portare l'elettricità. Ma come, non c'è il modello Sicilia, il modello Crocetta, tanto esaltato? Ma che ne so io? Il modello Sicilia è quello di dare sempre ragione agli altri. Cioè ai grillini per tenere insieme la baracca. Ma al Colle come ci è andato Grillo col coso? Col col SUV. Ah, col SUV. Dunque, lei... No, col van. Ah, col van. I grillini, col van. E i grillini vanno ogni tanto con l'Eurostar, anzi no, con Freccia Rossa. Sì. Sono contraddizioni secondo lei oppure fa parte, insomma? Non sono contraddizioni, ma immagino che vadano in macchina come tutti, che bevano la Coca-Cola come tutti, che usino le cose che usiamo tutti, eccetera, eccetera. Ma Grillo non sa nemmeno di che cosa parla, sbraita sulla decrescita, queste robe, ha leggiucchiato qualche libro qua e là, e buonanotte, ma non. Però questo non è che allevia le colpe degli altri, no? Che hanno fatto talmente tanti di quei pasticci, per cui io capisco chi ha votato Grillo, non è che non lo capisco. Però dall'altra parte ci sono i giovani turchi, lei li capisce questi giovani turchi del Partito Democratico? Mi dica qualcosa di cattivo sui giovani turchi. No, lo so che lei dice qualcosa di cattivissimo, ma non la vuole dire in realtà sui giovani turchi. Sono ragazzi seri che hanno studiato, però come posso dire... Sono i nipoti della vecchia generazione, invece qua ci vuole un cambio. Cioè completo. Sono i nipoti dei comunisti, dice lei. Fondamentalmente hanno quella forma mentis, quel modo di pensare. Ma anche Bersani in realtà ha la mentalità da vecchio comunista, no? Ma Bersani è molto più liberale di loro, secondo me. Sì. Solo che, secondo me, si è molto smarrito in questo. Un po' per la necessità di contrapporsi a Renzi, un po' per la necessità di tenere unito questa galassia di sinistra che ormai è diciamo dispersa in 50 filoni diversi. Ma lei questa fissazione di Grillo per mettere tutto online anche adesso l'elezione del Presidente della Repubblica, come la vede? Come una roba... Ma sono delle sciocchezze senza senso. In realtà l'uso che fa Grillo della rete è esattamente lo stesso che faceva Mussolini del balcone. Cioè? È esattamente unidirezionale. Unidirezionale, so che Mussolini andava sul balcone e aveva Piazza Venezia davanti a lui invece anziché andare sul balcone va sulla rete. Lei dice come Mussolini andava sul balcone, il messaggio è la stessa cosa che Grillo utilizza. E infatti parla per diktat, non ascolta le opinioni contrarie, addirittura le cancella. Propaganda bufale, esattamente come Mussolini propagandava il numero dei carri armati. Fascistoide, insomma, non è solo fascista vero e proprio Grillo, secondo lei? Populista autoritario, diciamo. Populista se autoritario. Un linguaggio più colto. Parenzo, ci sono i cani o no? T'hanno beccati i cani con sta droga o no? No, i cani no, sono riuscito a uscire indenne, ma volevo spiegarti questo. No, volevo, è interessante sapere però se chi contesta quando ha finito, se ancora ogni tanto si fa qualche cannetta, dato che lui mi sembra per la legalizzazione. Capita di farle? Capita. Oh, giusto. Dunque, lei è d'accordo per la legalizzazione delle droghe leggere? Assolutamente sì. Anzi, la domanda che volevo applauso, fare lei, su, applauso. La domanda che volevo fare a lei è un'altra. Ma perché si può parlare liberamente ormai anche in televisione in prima serata? Sì. Su battute, giornali, eccetera, eccetera, e si continua a negare questa realtà e a considerare che si fa una canna come una specie di reietto? No, ma lei si figuri, ma con me sfonda una porta aperta. Io non mi sono lo mai. No, ma volevo che lei mi spiegasse come mai. Perché c'è una tabù su ipocrisia bestiale. C'è un tabù su due cose in Italia per la prima serata, ma soprattutto per la prima serata, ma anche per la seconda, in generale in televisione, che è il sesso, fondamentalmente, anche se poi molto è stato stoccato. Il sesso mi pare che sia stato ampiamente stoccato. Sto parlando ovviamente spesso. È stato Gad Lerner. Sì, in che senso, scusi? Ha fatto una serie di trasmissioni. Ah, le trasmissioni su Berlusconi. Donne, no? Su Berlusconi, certo. Sì, sulla droga, effettivamente è vero. Se uno dice mi sono fatto ogni tanto mi faccio una canna, sembra che è una persona così che magari poi è poco credibile in quello che dice, insomma. Mentre puoi dire tranquillamente una volta ogni tanto ho alzato il gomito, no? Sì, e nessuno si scandalizza. Sì. Cioè, ma lei quante volte? Una volta al mese la fa? Ma che ne so, adesso non abbiamo in particolare. Ma che ne so, così, capita. Come apparenza, d'altra parte, no? Io non lo faccio perché sa, sono un mezzo, faccio finta di fare l'atleta. Dunque non fumo, non faccio nulla, eccetera. Fai molto male. Beh, ho capito, faccio molto male. Non bevo, non fumo, che devo fare? Mi vuoi ammazzare? Lei lo sa che a fare l'atleta poi avrà un sacco di acciacchi. No, ma io sono... Farà male le ginocchia, la schiena. Molti dicono che l'attività fisica peggiora le condizioni, come dire... Quando le viene voglia di correre, pensi al piacere di un bagno caldo e vedrà che le passa. Parenzo, dove diavolo sei? Dico, io lo sai che non posso più stare senza di te ormai. Sono sul taxi. La cosa mi preoccupa, perché mi preoccupa, no, anziché no. Il tassista, abbiamo dovuto impogli di chiudere, perché sono salito e c'era la tua voce. Allora, dopo chiudere... Beh, come al solito, ringrazio tutti i tassisti, non solo romani, anche milanesi, bolognesi. Ma lei sta arrivando da Tel Aviv? Sta arrivando da Tel Aviv, io sono arrivato da Tel Aviv. Io parto dopo domani per Tel Aviv. Ti do io 2 o 3 locali belli dove devi andare a Tel Aviv. No, ma li conosco tutti, io ho una società a Tel Aviv. Scambisti? Nanushka. No, dico, Nanushka non la società, i locali. Parenzo, sei andato in qualche locale per scambisti? No, sono andato in un... un posto sul mare molto bello che si chiama Manta Rey, dove si può mangiare del pesce. Conosco. Ma c'è un locale fantastico che si chiama Nanushka, che è Nanushka ha in vetrina la fotografia di Stalin, perché è un locale georgiano, cucina georgiana, e poi soprattutto c'è un bar fantastico con della musica meravigliosa, dove la gente balla, canta, si diverte. Scusi, due cose ancora, ma la decrescita felice, con la decrescita felice che succede? Appunto, disoccupati, stiamo a casa e come dice Grillo, dobbiamo godere dei profumi, della luce, degli odori, delle amicizie, eccetera, eccetera, e tornare a mangiare rape e fave. E l'occupazione? E l'occupazione? L'occupazione impicchiata. Impicchiata, beh, ma è una cosa disastrosa. E l'ultima cosa è questa, scusi, ma io voglio dire, un'altra, oltre alla droga, c'è anche la questione della prostituzione, ma la vogliamo legalizzare prima o poi? Non lo so, che dobbiamo fare? Ormai ci sono i cataloghi, capisce? Cioè, Senta, ma Grillo, adesso mi è venuta in mente questa cosa qua, a proposito di Israele, ma non è che è anche un po' antisemita, secondo lei? Beh, si è fatto scappare parecchie cose, no? Mi pare che forse avesse questo parente, non ricordo bene, il padre... La moglie iraniana. Sì, dal padre della moglie, che è morto. Peraltro si faceva dare qualche consiglio sulla politica estera. E ha avuto qualche scivolone non male, ma che deriva fondamentalmente da un'ignoranza profonda. Sono gli stessi scivoloni che ha avuto su un sacco di altre cose, quando voleva distruggere i computer, oppure quando dice che... Cioè Grillo a capo della diplomazia italiana, cioè capo del governo con la diplomazia, che accadrebbe? La guerra domani mattina? Che succede? No, questo è impossibile, perché non ce la facciamo, diciamo, potremmo essere invasi immediatamente. Una guerra contro di noi. Grazie, a presto, grazie a Chicco Testa. Grazie a voi, grazie. Abbiamo il giornale radio delle 19, torniamo subito, 800 24 00 24. Parenza, abbiamo iniziato la grande, cerca di farti trovare, non ci rompere le scatole, a dopo. Guardi, è una cosa intollerabile. Cioè questa che si presenta come se fosse un premio Nobel, come se fosse Rita Levi Montalcini. Ma va a morire ammazzato e vattene. È la zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza, che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Adesso mi sono tenuto da due giorni questa cosa qui sulla punta della lingua e la voglio dire tutta, caro Parenzo, la voglio dire tutta. Cioè? Mentre gli italiani se la passano come se la passano, in alcuni casi bene, in altri male, mentre la situazione economica è quella che è, mentre eccetera eccetera, quello che sappiamo, quello che ci dicono, spesso con tante esagerazioni e tanta enfasi, c'è una categoria di persone che rimane privilegiata. Molto privilegiata. Tu sai chi sono? Te lo dico io. I dipendenti, i saggi che c'è. I saggi sono tutti professori universitari, altro che privilegiati, appunto. Sono stra privilegiati. Quello sì, è vero, hai ragione, quello è vero, però è un altro discorso. Sono i dipendenti di Camera e Senato. I dipendenti di Camera e Senato. Tu lo sai qual è lo stipendio medio dei dipendenti di Camera e Senato? Lo stipendio medio. Per carità, io mi auguro che tutti guadagnino così. Tutti. Guarda, tutti. Il signor Stella e il signor Rizzo del Corriere della Sera avevano pubblicato proprio tempo fa una bella inchiesta. No, veramente questi... l'altro giorno. Tu eri in Israele. Hanno ribadito l'altro giorno. Stipendio medio di 150.000 euro. 5 volte la paga di un impiegato pubblico. Cioè un impiegato pubblico normale, un impiegato pubblico prende 5 volte meno di un corrispondente impiegato pubblico, che però ha il culo, spesso anche il calcio in culo, per lavorare alla Camera e al Senato. Perché poi ci sono tanti altri che sono passati, sono entrati alla Camera e al Senato con regolare concorso, anzi quasi tutti. Ma quanti sono? Però un migliaio in tutto, un migliaio. E tu poi sai un'altra cosa? Sai che cosa hanno questi signori? Cioè, hanno persone... quella divisa meravigliosa blu che gli regala. Non solo, alcuni sono vestiti come noi, non è che sono tutti in livrea, insomma. Allora, tu sai cosa hanno oltre alla tredicesima, quattordicesima cosa che hanno tutti i dipendenti, no? Tu sai cosa hanno? Anche la quindicesima. La quindicesima. Ma quanto viene data, scusa, la quindicesima? La quindicesima, non lo so, infatti questo è interessante, sapere il mese esatto in cui viene data. E la questo è fondamentale. Crozza sul napolitano. La zanza. Care italiane, parliamoci chiaro. Ho nominato il governo tecnico ed ha fallito. Ho indetto le elezioni e sono fallite. Ho nominato Bersani e ha fallito. Che bulite ancora da me? Io fossi in voi, solo per scaramanzia, non mi chiederei più niente. Se non si fosse capito, io sto prendendo tempo perché obiettivamente, con viva e vibrante soddisfazione, diciamocelo, io non so che cazzo fare. E questo qui sì, va detto. Effettivamente un po' è così, eh. Un po' è così, non sa che cazzo fare. Io stanno mandato per 10 giorni 10 saggi a Zonzo. A Zonzo. Lei russa e non si sveglia mai. Corazziere 1. Sì. Hanno prodotto qualcosa i saggi? Sì, ci sono le prime proposte. Già, queste prime proposte, perché sono saggi, non sono mica saggi a pinco pallino, sono saggi pensati, questi qui hanno studiato assai. Ah, senti qui, in estate bere molta acqua e mangiare molta verdura, e questo è saggio, questo è un saggio. Ci abbiamo altro? Sì. Certo. Quando entri in chiesa, imposta la vibrazione sul cellulare, e questo è buono. Vedi che ho fatto bene a mettere anche uno di CL dentro? Certo. E questo è buono. Questo è: se giochi in borsa, compra quando è basso e vendi quando è alto. Se chi deve essere un professore di Fratello dei Monti. L'ultima. Vediamo l'ultima. Questo è il saggio del PDL. Il saggio del PDL, vedi, è buono. Senti cosa dice il saggio del PDL. Donna nana, tutta abbassiamo Tito. Beh, eccezionale, titoli del TG3, torniamo subito. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Soldi alle imprese, ancora un rinvio per problemi di copertura finanziaria. Squinzi, no manovre correttive, PD e PDL, governo fermo. Tares, compromesso tra governo e comuni, la tassa sui rifiuti si pagherà a maggio, la sovrattassa a fine anno. Renzi, la politica sta perdendo tempo, i senatori vicini al sindaco presentano una legge per abrogare i rimborsi elettorali. Dal 18 aprile Parlamento convocato per l'elezione del capo dello Stato, il Toto Presidente tra i parlamentari. Grillo, chi vuole l'accordo con Bersani non doveva votarci. Scontro sulle commissioni, SEL, 5 Stelle e Lega, farle subito, PD e PDL prima al governo. Dopo il sit-in degli agenti contro la madre di Federico Aldrovandi, Bologna vota la cittadinanza alla donna, la Lega e il PDL contro. Mobilitazione internazionale in difesa di Amina, la tunisina che a seno nudo ha sfidato gli integralismi, ma la giovane è scomparsa, forse reclusa in casa. Ora io non discuto sulla cittadinanza onoraria eccetera eccetera per la signora Aldrovandi, si può dare come non si può dare, a me di solito non piacciono queste cose, queste onorificenze, le trovo stucchevoli, inutili. Fossi nella signora Aldrovandi rifiuterei questa roba qui, tutte queste orpelli, la cittadinanza, che uno che se ne fa della cittadinanza onoraria quando gli hanno ammazzato un figlio, cioè cosa se ne fa? Però... sì, ma va bene, ma perché non discuto sulla cosa, va benissimo, cioè non... va benissimo che qualcuno la proponga. È un modo per ricordare. Sì, vabbè, però insomma, puoi capire che a me queste cose qua proprio non mi piacciono. No. A te no, ma tu non sei la signora Aldrovandi. Ma infatti, un figlio morto come ha fatto. Ma infatti, quel non discuto. Si chiama Giovanardi. No, ma non discuto. Di... sì, ma lascia perdere Giovanardi, non c'entra niente oggi. Giovanardi c'entra invece un signore che si chiama Manes Bernardini. Manes Bernardini, sì. È stato tra l'altro il candidato sindaco, se non sbaglio, a Bologna per il centrodestra alle passate elezioni. Manes Bernardini, sì. Il quale ha definito Marchetta la proposta della sinistra di dare la cittadinanza onoraria alla signora Aldrovandi. Ora, si può essere contrari, ma cosa c'entra la Marchetta? Cosa diavolo c'entra la Marchetta, Bernardini? Su, dai! Verrebbe da dire, ma che mondo! Allora, ripeto quello che ha detto Grillo. Si lascia perdere questa polemica, non me ne frega più niente a me. Invece, quello che ha detto Grillo mi sembra fondamentale. Grillo ha detto: se qualcuno di voi ha votato 5 Stelle per fare gli inciuci e gli accordi con gli altri partiti, allora avete sbagliato partito. D'altra parte, quello che diceva in campagna elettorale, lo vogliamo riascoltare? Con San Giovanni, credo che sia San Giovanni l'ultimo giorno, uno dei comizi. Insomma, sentiamo come definiva PD, PDL. Sentiamo. Fanno finta di bisticciare PDL e PD meno L, ma poi sono d'accordo con tutto sulla cementificazione che avete qua davanti. ci sono le coprose e c'è l'impregilo. Sulla TAV ci sono tutti e due. Sul conflitto di interessi vanno d'accordo. Sulla nucleare vanno d'accordo. Fanno tutte queste cazzo di manfrine. Hanno già deciso tutto. Bisticciano in Parlamento. Poi vanno a farsi due bucatini alla matriciana. Insieme. Dunque, non rompete i coglioni. Deputati, senatori, con i mal di pancia dei 5 Stelle, non rompete le balle. Cioè, era chiaro sin dall'inizio. Quelli che adesso si fanno venire il mal di pancia, i problemi esistenziali, i problemi politici. Ma che dobbiamo fare? Meglio Bersani o Monti? Crimi, no? Forse è meglio Bersani di Monti. Ma come? Ma il tuo leader politico, quello, l'unico motivo per cui tu sei in Parlamento, perché altrimenti non ti voterebbe nemmeno tua moglie. Cioè, l'unico motivo perché tu sei in Parlamento è Grillo che dice quelle cose e tu adesso dici no, forse è meglio Bersani di Monti. Il quadro è cambiato, ma dai, però. Su, dai. Ma facciamola finita, dai. Ma che il quadro è cambiato? Ma che gliene frega? Ma tu ragioni come... Cioè, tu pensi che Grillo ragioni come... Come si ragionava una volta? Il quadro è cambiato. Ma che vuol dire il quadro è cambiato? Loro che sono presentati sono il secondo partito. Mamma mia, sono adesso... il secondo partito. Allora? Sanno perfettamente però che siccome le maggioranze si creano e si disfano in Parlamento, questa è la logica di una parlamentare, questo è quello che succede in... Senti, ma stai parlando come Onofrio Pirrotta, mi sembra, il mitico Onofrio Pirrotta, ma di che stiamo parlando? Cioè, amico mio, di che stiamo... Vabbè che sei in taxi, non puoi urlare, eccetera, parla normalmente come mangia, cioè parla come mangi, di che parliamo? Dai, su... Dove nascono i governi? Ma che vuol dire? Quelli se ne fottono di queste alchimie, se ne fottono! E allora si va a mangiare. Mamma mia, io oggi sei veramente, in questi giorni sei veramente inutile. Sei veramente, ma di che, ma ti vuoi svegliare? Di qualcosa di originale, stai dicendo tutte le cose e allora si va a votare. Ma questo, per far questo mi basta cosa? Allora piglio il notista politico del TG1, no? Sì, io dico roba da matta. Cioè, siamo alla follia, cioè Becchi, Paolo Becchi. Ma che mondo è questo? Intervistato dopo la manifestazione di studenti in cui c'era scritto in un cartello "sputiamo su Hegel", io mi sono permesso di dire: ma scusate, ma e questi ragazzi, ma io se fossi andato in piazza non avrei sputato su Hegel ma su Monti. Allora l'hai detto, è inutile che dici no la trasmissione eccetera, hai detto se lo incontrassi in piazza per strada sputerei addosso a Monti, basta, appunto, l'hai detto, professore, su, va bene. Due volte l'ha detto. Ma sì, ma va bene, ma per carità, poi non stiamo qui impiccati a questa vicenda qua. 800 24 00 24. Domenico, provincia di Pisa, buonasera. Buonasera. Vada. Io sono d'accordo con Grillo di non fare nessun compromesso con PDL e col PD, anche perché questi signori hanno avuto 20 anni davanti per poter gestire tutta la situazione e ora stranamente, perché c'è la presenza di Grillo, cercano di rintrugliare un'altra volta. Sappiamo benissimo che non hanno intenzione di guarire l'Italia, perché basta partire dalla sanità, basta partire dalla sanità. Ma io non lo so se non il 40% dei debiti sono debiti voluti dai politici, sì, dalle cooperative, associazioni hanno inventato, capito? Perché io porto l'esempio di Pisa: per spostare un paziente da un reparto a un altro a Cisanello chiamano delle ambulanze che si spostano da 12 km per fargli fare 300 metri a un paziente. Il punto fondamentale è, non so se Grillo ha ragione, però non me ne frega niente, ha ragione, però certamente quello diceva all'inizio, poi uno può dire c'è la dinamica parlamentare, ci sono i parlamentari che la pensano in maniera autonoma, ma lì non sono stati messi per pensarla in maniera autonoma, cioè lì sono stati messi per avere un indirizzo chiaro, preciso, che era quello che diceva Grillo prima delle elezioni: nessun accordo con nessun partito, PD, PDL, è esattamente la stessa cosa. E dunque di cosa parliamo? Chi ha i problemi esistenziali se li faccia passare. Gianni da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, mi sente? Sì, dica. Allora, sì, niente, io volevo dire al Chicco Testa, che adesso guadagna milioni di euro facendo amministratore dell'Enel, che le centrali nucleari, di non dire le stronzate, perché la centrale nucleare fin quando funziona funziona bene, ma dopo le scorie dove le mettiamo? Andiamo a Trino Vercellese a dire questi dove se le devono mettere le scorie che vabbè ma adesso non entri nel merito di queste cose, altrimenti stiamo qui tutta la notte. Quello è a favore del nucleare, uno può ma scusi, ma uno potrà essere a favore del nucleare come Chicco Testa, oppure è proibito, oppure è proibito, oppure ma è proibito, ma è proibito, chi lo dice è proibito? Lo dico io che ma è proibito, ma lei se dice che è proibito non sta su questo. Dire le stronzate, mi dica il signor Chicco Testa le scorie di portarsele a casa sua. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Eh no, cazzo, questo è il discorso essenziale della centrale nucleare. Va bene, e poi volevo dire che Grillo, se continua così, ci rimanda in mano a Berlusconi, cazzo. Ah, beh, allora questo è un ricatto che Grillo sicuramente, guardi, ne terrà conto di questo ricatto. No, no, Grillo se ne sbatte i coglioni, ah, però ecco, alla fine siamo noi che torniamo in ballo con Berlusconi, mica Grillo e Chicco Testa con l'Ener. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato. Allora qualcuno dovrà dire che non è possibile che in un paese serio ci sia uno che si fa le ferie nella villa di montagna. In questo momento sta con il panzone al sole nella villa al mare a Marina di Bibbona in Toscana. Poi si mette gli occhialini Ray-Ban a specchio e va a fare le consultazioni. Ehi, ma che stiamo al teatro, al circo equo? Ma falla finire, la rete, tutte queste palle. Ma cose... Io avrei voluto dire a Bersani, guarda Bersani, c'è una parola nel linguaggio italiano, nella lingua italiana, che è la parola dignità, che è un bene non negoziabile. Non si può tollerare la mancanza di rispetto da parte dei tuoi interlocutori. Questa che dice al presidente in carica mi pare che stiamo a Ballarò. Ma va a morire ammazzato e vattene, ma vatti a andare a fare due passi davanti a Montecitorio. Ma come ti permetti? È una cosa che fa. Oh, Pannella, è tornato Pannella dicendo che Napolitano sta violando la Costituzione con i 10 saggi, è scatenatissimo Pannella. Perché secondo lui sta violando la Costituzione? Devo dire la verità. Ma dove sarebbe la violazione? Lasciamo perdere la violazione della Costituzione, eccetera. Però devo dire la verità, se un presidente di un altro colore politico, se ci fosse stato un presidente di un altro colore politico al posto di Napolitano, con tutto quello che è successo, con tutto quello che è successo l'ultimo anno e mezzo, con tutto quello che ha detto Napolitano, ma anche con questa mossa ai 10 saggi, diciamo la verità, se lo sarebbero sbranato vivo, cioè Cossiga sarebbe già agli arresti con i ceppi da parte dei carabinieri, richieste di impeachment, perché non nomini un, perché non fai andare avanti Bersani, perché non hai mandato Bersani alle camere, miliardi di cose, perché hai nominato i 10 saggi, l'Ampass, eccetera eccetera, e Monti, le manette. Ma qui la differenza è che sono tutti d'accordo a prendere tempo. Pannella è totalmente al di fuori, ma tutto. E questo Presidente della Repubblica ha proprio questo connotato. È il dominus della politica italiana. E non c'è norma, regola, obblighi a quali lui deve rendere omaggio. Non c'è manco Marco Cornei. No, ma c'è. Come ci può essere in un regime antidemocratico, diciamo di estrazione PC o altre cose di questo genere, lo ripeto, loro quando fanno pulizia al proprio interno, all'esterno, cioè gli elementi essenziali della vita civile. Ma che stai a dire, Marco? Pulizia, polizia, perché quando fa, com'è che dice? Non ho capito. Perché quando si viola il diritto della Costituzione, il diritto alla vita, con i 10 esploratori mandati prima da Pierpaolo, non capisci un cazzo. Cioè, scusi Pannella, com'è che, perché Napolitano sta violando la Costituzione? Non ho capito bene. Perché Giorgio, lui, sì, il primo violentatore della Democrazia e della Repubblica, lui dal Quirinale nel semestre bianco, quando c'era Einaudi, Gronchi, sì, sì, con Pierpaolo e Benedetto. Ma Croce. Benedetto chi? Abbiamo scritto il diritto della Costituzione a vivere e non a morire. Vabbè. Vedo che continui a non capire un cazzo. Siamo qui, Leonardo da Bari. Buonasera, Leonardo. Buonasera, vada. Dottor Cucciani, volevo dire alcune cose. Io faccio dipendente pubblico in un ospedale pugliese. Sì. Garantito, dovrei sapere tante cose su vendolo. Penso. Vabbè, no, e poi una volta le racconteremo, se vuole. La verità è certo, a Bari. Non ho capito, scusi. Mandate qualche giornalista a Bari e vi faccio vedere gli sprechi. Gli sprechi della regione, gli sprechi di chi? Della regione Puglia. Vabbè, mi fermo qui. Allora, io non so cosa sia la quattordicesima. Quanto si paga ad agosto? Sì, ma adesso a prescindere, alcuni ce l'hanno, altri no. No, è gravissimo quello che ha detto. Ma chi? Pubblici. Quello che ha detto chi? Ha detto, ma ho detto un sacco pubblici. Di impiegati, non pubblici, privati. Noi siamo pubblici, non sappiamo cosa sia la quattordicesima, non la quindicesima. La quattordicesima, qualcuno mi dice che si paga da. Ho capito, ma si arrabbi con i dipendenti del Senato e della Camera? Ha detto che i dipendenti pubblici, guardi. Volevo dire i dipendenti, non quelli pubblici, insomma. Dipendenti. Ecco, io la ringrazio che si è corretto. Vabbè, ma non è importante. Il principio. Noi abbiamo rischiato di non prendere la tredicesima. Sì, d'accordo. Il principio è un altro. Il principio io è un altro. Il medico ospedaliero lavoro giorno. Sì. E si prende i ridicoli più bassi d'Europa. Prima eravamo battuti anche dai greci e dagli spagnoli. Vabbè, Leonardo, lei è dipendente pubblico come i signori che stanno alla Camera e al Senato, solamente che quelli hanno la quattordicesima e pure la quindicesima, dopodiché lo stipendio resta sempre lo stesso. È evidente che senza quella quattordicesima e quindicesima magari sarebbe un po' inferiore. Per cui si incazzi là, chiami il centralino della Camera e del Senato e dica: io sono incazzato nero perché sono dipendente pubblico come voi, però guadagno 4 volte, 5 volte di meno, capito? Guardi, lì, signor Cruciani, lì è alla Radio 24, non credo che guadagna. Ma io sono, questi sono cazzi delle aziende private, mica sono soldi appunto, pubblici. No, lei sta dicendo che guadagna meno, non si capisce bene. No, io guadagno di più, però quello è un altro discorso. Allora, io volevo dire un'altra cosa e chiudo. Io guadagno sempre di più, non si preoccupi, qualsiasi cifra lei dice, io dico sempre che guadagno di più. Se fottere parolacce, anche come quel signore, sì, mi sbatto i testicoli, eccetera. Ho capito, perché sono organi come tutti gli altri. Evitiamo il linguaggio beggio, invece di dire non me ne importa niente, invece di dire... non me ne non me ne frega niente, ma se fosse per questo non me ne importa, no, è brutto dire così, fosse questo il problema, un pubblico molto vasto. Grazie, io Leonardo, l'abbraccio. L'abbraccio. Silvio da Monza, Silvio da Monza, buonasera. Ciao Cruciani. Vada Cruciani, senti, tu sei un uomo intelligente, no? Sì, io seguo la Zanzara ogni sera, no, è diventata quasi una specie di droga per me. Allora voglio dire questa cosa, no? Tutte le persone che tu inviti, no, in trasmissione, professionisti, giornalisti, parlamentari, ex parlamentari, il De Luca, tutti quanti, no, quelli stanno in quei posti là perché sono gli uomini del sistema. Ma che vuol è dire inutile del che sistema? Vengono là a buttare veleno e a mettere la lente di ingrandimento sul 5 Stelle. Perché il Grillo di questi qua non se ne fotte proprio, vuole solamente rompere il giocattolo. E siccome loro con quel giocattolo ci giocano da anni, hanno paura di perdere la poltroncina, no? Questo è l'unico vero problema. Grillo non ha problemi verso qualcuno o qualcosa, giusto? Perché è stato chiaro. Dice a questa gente, queste gentaglie, no? Ma chi è gentaglia? Chi? Non è che sono tutti gentaglia, non è che gente, tutta gentaglia. Quella gente che pur sapendo che è stato messo in un posto ministeriale, no? Direzioni di banca, giornalisti che pennivendoli, no? Che stanno là. Ma non sono solo pennivendoli i giornalisti, su, non è tu non faccio. Ma non tutti quanti, sto dicendo. Però quelli che vengono da te, no? Che sappiamo bene chi sono, perché non lo sappiamo chi sono. Sappiamo da dove vengono, qual è l'estrazione politica, come sono schierati. Ma dipende, ma lei sta generalizzando, non è che da noi viene tanta gente. Ma da noi viene tanta gente, signora. Viene tanta gente, non è che mi posso mettere. Per esempio, no, voglio fare un esempio che possa calzare per tutti, no, se mi consenti. Quando il De Luca da Salerno, no, dice che esiste una parola che si chiama dignità, e quella parola che afferma che la dignità non è, come dice, non è commerciabile, e no? Allora? Allora lui ci deve spiegare il significato della parola dignità in un'Italia che questa sera non riesce a fare un decreto per dare i soldi alle aziende. E vabbè, cioè, ma lì c'è un casino. Non bisogna spiegare De Luca questa cosa. Vabbè, qua. Ma lei ha ragione su questo. Però là c'è un casino che riguarda l'Europa, eccetera. Poi ci vogliono. La cosa incredibile è che vogliono ridare i soldi alle imprese mettendo più tasse. Questa è la vergogna vera. Speriamo che non passi questa cosa qui. Cioè, vorrebbero ridare i soldi alle imprese aumentando le tasse. Cioè, una cosa ridicola. Cioè... E convengo questo qua. Poi c'è un'ultima ciliegina sulla torta. No, non c'è nessuna ciliegina sulla torta. Nessuna ciliegina. Well, now, there must be. La prima mozione parlamentare del 5 Stelle è sul ritiro dall'Afghanistan, Bersani, ci senti? Sì, Bersani, ci senti? La prima mozione del 5 Stelle è sul ritiro dall'Afghanistan. Bersani, ci senti? So, I'm nature's mosquito. And that means I'm gonna go bite, bite, bite, bite, bite, sir, yes. I'm nature's mosquito, I'm gonna go by, yeah. Andrea, provincia di Ancona, buonasera. Però vedi, almeno si ricordano dei soldati in Afghanistan. No, ma è coerente con quello che hanno detto, Cioè io non sto criticando. Questi sono coerenti perché tutti diciamo, nessuno di noi ogni giorno purtroppo, no, pensa ai militari in Afghanistan. No, assolutamente sono coerenti. Loro, grazie a questa stronzata che hanno preso, perché questa è una stronzata. Perché non è una stronzata? Scusa, perché è una stronzata? Chiedere il ritiro perché. Ma non è affatto una stronzata, è una cosa legittima. È una cosa legittima di una forza politica. Io sono contrario al ritiro dell'Afghanistan, ma non è una stratega. Sei diventato no, ma scusa, abbi pazienza, il problema non è la strategia militare, è legittimo. Non mi interessa. Vabbè, non ma tu non ti interessa perché a te nel merito. Vabbè, nel merito non ti interessa. Non entro nel merito perché non mi faccio dire da un gruppo di ma io non sto entrando nel ma è il se contrario, è il contrario, no. È il contrario, sto dicendo il contrario, non entro nel merito, ma è coerente con quello che loro hanno sempre detto. Hanno detto siamo a favore del ritiro dall'Afghanistan e uno dei primi atti parlamentari che fanno infatti, è chiedere il ritiro dall'Afghanistan. Dopodiché l'unico merito che hanno è quello di averci ricordato che ci sono dei militari in Afghanistan, quindi l'unico merito che hanno, non il merito della mozione, l'unico merito, perché tutti se ne fottevano in questo contesto. E invece bene. Vabbè, anche se nel mezzo. Mi sembra una stupidaggine questa qua. Andrea, allora. Sì, buonasera Cruciani. Una cortesia, niente, io ho sentito un intervento riguardo lo stipendio adesso dei compensi dei dipendenti del Parlamento. Sì, sono i dipendenti, non i senatori e i deputati, i funzionari di Camera e Senato, sono un migliaio circa. Esatto, perfetto. Sì. Come sicuramente ci saranno stati i allora? Praticamente. Niente, volevo chiederle, però non meno di una settimana fa io ho sentito lei e Ferrara prendere diciamo per i fondelli un radioascoltatore che Ferrara aveva detto ma lo vogliamo dire o no che non è diminuendo lo stipendio in questo caso dei parlamentari ma è diverso lo stipendio dei parlamentari lo stipendio la vera casta la vera casta è quella dei dipendenti della Camera e del Senato altro che parlamentari che ci sono e non ci sono però, è quella lì la casta Ma ci credo, però lo ascolti. Ma quello che c'entra Ferrara, perché lei mi accomuna a Ferrara? Ferrara pensa che la diminuzione dello stipendio dei deputati e dei senatori sia qualcosa che non, alla fine non cambia di molto. Non cambia, però ascolti, ma ho capito che non cambia. E allora? Io credo che il messaggio non sia corretto, cioè nel senso che questo va bene, cioè... Diamoci una regolata, cioè uno stipendio, adesso non voglio dire che devono morire di fame, gli diamo 10.000 euro, questi ne guadagnano 20, 30, 35, no? Ma che si accontentassero, faccio per dire, di 10.000, perché giustamente il compito che ricoprono è importante, tutte queste cose qua. E non diciamo, vabbè, che se lo diminuiamo, lei tranquillamente non diventa più ricco, ma è sbagliato, ho capito che noi non diventiamo più ricchi. Anche lei, Cruciani, più guadagna, non è che io mi arricchisco, che discorsi sono? O se Ferrara prende più di un arricchito, intanto prendiamo il giusto, vabbè. O anche un po' più del giusto, ma cavolo. Ultimamente se ne sentono di cotte di crude. Vabbè, guardi, lo stipendio dei parlamentari, così come adesso, mi sembra assolutamente normale. Se uno fa attività politica con i soldi che sono destinati all'indennità, poi ovviamente bisognerebbe sfrondare tante cose, gli ex deputati, i telefoni, i viaggi, quello che è. Però non mi sembra una cosa scandalosa prendere un'indennità di 5.000 euro. Cioè, francamente non mi sembra scandaloso. Ovviamente dovrebbero essere di meno i deputati, e quello è un altro discorso. Beh, Beh, caro Grillo, lei oggi ha bacchettato definitivamente, mi sembra, questi saggi, dicendo che addirittura nessuno li deve incontrare, no, caro Grillo, giusto? Beh, è tutto finito. Ma questi, ma che cazzo vanno a fare questi 10 prostatici in giro per Roma? Dove vanno? Ma dove vanno? Bastava dargli un telefonino, una videocamera, andavano in giro, mettevano tutto sul web, era finito. Ma cosa devono mettere? Consultazioni. Ma di quali consultazioni parliamo, che sono morte, morte? Cosa cazzo devi consultare per sapere che ti mandano tutti a fare in culo? Questo è il punto. Scusi Grillo, ma a che punto sono le... Se sei un saggio lo devi sapere. Se sei un saggio devi sapere che a Peracchini, se vogliono un governo bersani, ti dicono di andare a fanculo, hai capito o no? Scusi un attimo Grillo, ma io voglio capire una cosa, ma... Ma non c'è niente di cui scusarti, che lo devi dire anche a Squinzi. Che devo dire che a Squinzi? Che devi dire, Cruciani, a Squinzi? Che è morto, finito, le aziende. Ma come non morte? Non c'è niente da produrre. Ma come... Nulla da... Vai a fanculo. Ma lei vuole la decrescita. Non c'è nulla da produrre, le aziende sono finite. Ma vuole la decrescita, scusi, la decrescita. Ma certamente stai a casa, devi mangiare delle erbe. Ma ho capito. Ti curi con... Che cosa produci? E uno come si cura? Come si cura? Con l'urina? Come si cura? Non ho capito. Ma uno deve bere la giornata tipo di una persona normale, che uno deve bere del liscio, a un certo punto caga, mette in freezer le feci. E poi a un certo punto, se proprio deve scendere, esce la mattina, va a piedi ovunque. Le fabbriche inquinano, non serve a un cazzo. Non c'è niente da produrre. Vabbè, allora che cosa devo dire a Squinzi, scusi? È morto, finito, le aziende da chiudere. Il sole non va più 24 ore, non esiste. Beh, è finito, un morto, morto, tramontato, finito. Vaffanculo! Abbiamo con noi il parlamentare più giovane, che voi pensate che sia un grillino, in realtà non è così, è un esponente, esponente è una parola orrenda, perché mi viene ogni tanto esponente? Si diceva negli anni Ottanta, Parenzo, giusto? Rappresentante. Si diceva esponente negli anni Ottanta, del Partito Democratico, Enzo Lattuca, un compagno di merende di Parenzo. Buonasera. Buonasera. Come sta Lattuca? Non c'è male. Lattuca, non Lattuga. No, Lattuca ho detto, Lattuca. Ma ogni tanto, scusi Lattuca, qualcuno quando era più infante, a parte che lei ha 25 anni, dire più giovane mi sembra una follia. Comunque qualcuno si confonde e dice Lattuga. C'è sempre un prima. Qualcuno ha mai detto Lattuga? La confonde con la Lattuga? Sì, è capitato diverse volte. Lei di dov'è? Di Cesena mi sembra, no? Sì. Cesena Town. Beh, Cesena è il luogo della famosa Woodstock di Grillo, no? Esatto, l'abbiamo visto in anteprima che cos'era il Movimento 5 Stelle. Ma lei partecipò all'epoca come grillino, mi dica la verità, ha un passato? No, come grillino, io ero già in consiglio comunale all'epoca, partecipai come cittadino interessato a capire cosa succedeva. Insomma. Scusi, ma lei quando ha cominciato a fare politica, in culla? Più o meno. Cioè quando? Al liceo, a 15 al liceo. Anni, quella l'età. A 15 anni, cioè, mi spieghi la sua trafila, a 15 anni già stava in queste cose orrende che sono i consigli d'istituto, queste robe esatto, qui? Esatto, sì. Mamma mia, che cosa terribile queste cose qua, sempre nella sinistra ovviamente, no? È ovvio, sì. È ovvio, poi è diventata consigliere comunale a quanti anni, scusi, Lattuca? A 21. Poi a 25 adesso in Parlamento. Scusi, ma chi gli ha fatto fare andare in Parlamento a 25 anni? Lui a 25 anni fa tante altre cose, si diverte come un matto la sera eccetera, invece risponde alle domande dei giornalisti, le rompono i coglioni per telefono, gente che la ferma per strada, Parenzo che le chiede di fare un piccolo reportage sul candidato più giovane che entra in Parlamento, una roba terribile, mi dica la verità. È una bella domanda, sì. La risposta ogni tanto manca, poi in realtà lo si fa per passione, non per altro. Ma c'è un po' il brivido, oppure no? Oppure alla fine sì. Insomma, è tutto molto lento in Parlamento. Ma adesso è tutto molto lento. È molto lento, è un eufemismo, è in paralisi la situazione. È in paralisi. Come diceva Joyce, in Gente di Dublino, più o meno la situazione è quella. Però il brivido nel fare politica c'è. C'è il brivido, eh. Cioè lei non è uno che si sente quello che schiaccia i bottoni e basta, no? Si sente di contare qualcosa, bah. Un po' di adrenalina, cioè, ma nel fare politica, non in questa esperienza parlamentare, ancora non abbiamo nemmeno pigiato il bottone, quindi si figuri per quello. Sì, questo pure è vero. Parenzo, sei sparito? No, sono qui. Ma tu lo conosci? Volevo chiedere alla Tuca, al mio amico la Tuca, se è meglio per lui la amico. Gnocca o il Parlamento. No, vabbè, adesso queste sono tutte le solite domande. Parento, rende sempre tutto così grottesco, Parento. Lo so, però diciamo la verità, è meglio la Gnocca del Parlamento, diciamo. Ecco, 25 anni, scusa. Questo 25 anni, scusi caro Lattuco, no. Sì, vabbè, ma non si escludono, cioè non sono. Non si escludono, ma lei è fidanzato, scusi, signora Tuca. Anzi, si integrano. Sì. C'è uno tromba di più quando, quando certo, entra in Parlamento, dai. Scusi, un po' è vero. Ma non lo so, però parleremo anche di politica, spero, in questa sì. Ancora. Adesso non faccia come i vecchi politici che sono lì, scusi, però adesso parliamo un po' di politica per fare le cose. Cioè, voglio dire, lei è fidanzato o no? Questo è interessante, se vera. 25... No, le ho detto di no. Cioè, lei è single? Sì. Single, eppure mi sembra tu che l'hai conosciuto, Parenzo, io ho visto solo in video in quella puntata che hai fatto, terrificante, su MTV. Come terrificante? Vabbè, terrificante nel senso che era un po' improvvisata, diciamo, però bello, per carità, bel racconto, però un po' improvvisato come fatto. Parenzo fa tutte le cose molto improvvisate, alla fine riescono, però è tutta una grande improvvisazione, è tutto un grande cinema. Scusa. Tutto apparentemente improvvisato, poi tutto studiato nei dettagli. In realtà è tutto studiatissimo. Esatto. Scusi, non ho capito, tu l'hai conosciuto, dunque è anche un belloccio, un bel ragazzo sto Lattuca, no? Scusami, sono un secondo, Mary, qui non è in ordine però, mi può ripulire per cortesia il tavolo per te, e anche passare, subito però, subito! È l'amico dei poveri questo, quel solito amico dei poveri, Parenzo. Scusami un attimo, dimmi che è successo. Amico dei disoccupati, di quelli che perdono il lavoro, c'ha la Filippina a casa, da ordini perentori alla Filippina a casa, le cose terribili, le cose... Scusami un attimo, sì. Scusa. Mary? Mary? In me here, please. Pronto, sì. No, dicevamo, no, perché secondo me è una questione degli operai, le avrebbe trattato un po' diversamente. Cioè, scusa, tu l'hai conosciuto la Tuca, è un bel ragazzo? La Tuca è un bel ragazzo, poi è preparato. Sì, sì. Dovrebbe, preparato. È laureato lei, la Tuca, è laureato o no? Sì. Sì. Ma che c'ha? Lei è deputato, laureato, bello, cioè bel ragazzo, single, ma che vuole più dalla vita? La Tuca, si fermi qui, cioè le dovrebbe fotografare questo momento e dire vabbè, io in questo momento ho tutto, deputato della Repubblica, e molti in Italia farebbero, cioè, carte false, seppure laureato, magari si è laureato in materie umanistiche, di quelle così un po'... No, facile. Legge, tipo giurisprudenza. Ah, addirittura pure giurisprudenza, cioè, diciamo, bel ragazzo, l'ho visto, è uno non che gli piace la Gnocca. No, perché non gli piace? Gli piacerà sicuramente, le donne no, piacerà. Ma non in modo spasmodico come vabbè, a te. Adesso non ce lo vuole dire, che c'entra? Lascia perdere me o te questi paragoni, eccetera. Adesso non lo vorrà dire, no, perché quindi... sarà un po'. Scusi, però lei è tipico, dovrebbe essere il tipico deputato che sta con Renzi. Perché lei sta con Bersani? Scusi, non sta con Renzi. Mi spieghi questa cosa? Ma perché al momento delle primarie io ho scelto di votare Bersani perché era il progetto che mi convinceva di più. Poi ho riscontrato che questo progetto non ha incontrato quelle che erano le volontà dei cittadini. È fallito, è fallito, diciamo la verità, questo progetto è fallito, diciamola tutta. Sì. Non, almeno dal voto insomma ci aspettavamo un'altra cosa. Non c'è dubbio. Dunque, ma scusi, in che posizione è il suo segretario in questo momento? Io non l'ho capito bene, perché ieri l'ho ripetuto mille volte, è premier preincaricato congelato, questa è la sostanza, no? Poi ieri lui ha detto che di essere anche assorbito. Cioè anche assorbito oltre che congelato. Lei l'ha capito bene in che condizione il mandato era assorbito. Sì, il mandato, sì, beh certo, non Bersani eccetera. No, però... ma le posizioni in questo momento sono flessibili, sono liquide. Sono liquide, sì, sì. Prima della nomina del Presidente del Consiglio, nomina che non è avvenuta, sì. Tutto è liquido. Tutto e in questo momento particolarmente liquido. Hai capito? Questo è interessante, però mi piace molto questo Lattuca, che risponde in maniera sintetica, però effettivamente è tutto liquido. Chi era il filosofo del Sigmund Bauman? Ma voi sapete, voi siete molto più colti di me, io sono una bestia. Mi porti subito un prosecco ghiacciato, Mary. Pronto. Vabbè, ma io ho capito, ma Parenzo, ma dove sei? A casa ti stai facendo fare la stanza e no. Tutto con ordini perentori alla Filippina. In più ordini pure un aperitivo, una cosa. Ma Mary chi è? Poi io non ho mai conosciuta sta Mary. Una nuova filippina che ha assunto, chi è? Donna di servizio. Donna di servizio, vabbè. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa. A proposito, hai novità sul busto di ammirante da Israele? Ah, a proposito, Mary? Ha trovato mica il busto del signor ammirante lei? Ma che c'entra? Scusa, perché avrebbe dovuto trovare il busto di ammirante? Spiega. No, però vedi che do del lei, sono gentile, non è che dico... Scusi, lei. Se lei non fosse del Partito Democratico sarebbe grillino la Tuca, dimmi la verità, come indole oppure più del PDL? Difficile dire. così come indole, come, come simpatia, come, come attitudine, come, come anche valori, per carità, cioè non mica ci sono solo le, mica c'è solo la, lo stomaco. Probabilmente sarai uno di quei grillini che è stato cacciato. Ah, un grillino, però si sente più vicino a Grillo che a Berlusconi, che al PDL. Sì, col PDL davvero i punti d'incontro sono davvero pochissimi, se non rispetto ad alcuni parlamentari o esponenti del PDL che comunque riconoscono quelli che sono i limiti di Berlusconi, ma non hanno il coraggio di farne meno. Di dirlo, di dirlo. Sì. Cioè non hai il coraggio di dirlo perché dipendono da Berlusconi, le loro sorti elettorali. Ma di dirlo, ma anche di agire di conseguenza. Per esempio, insomma, si era parlato di primarie, mi sembra che sono state archiviate e non se ne parla più. Anche rispetto a un voto che potrebbe essere imminente, sembra che loro non abbiano bisogno di decidere chi è il loro leader. Vedi che ogni tanto parliamo di politica, non cazzeggiamo solamente. No, ma lei dice delle cose anche interessanti, molto interessanti. No, la cosa da capire è questa. Dunque, lei si sente più vicino, diciamo, ai grillini che ai berlusconiani, diciamo, diciamo semplificando, no? Però c'è un problema, che questi mi mandano a fare in culo tutti i giorni. Cioè, almeno il leader vi manda a fare in culo tutti i giorni. E questo è un problema, rispetto... Cioè, mentre quegli altri vorrebbero fare l'accordo con voi, magari che hanno interesse, ovviamente, a restare in ballo, perché degli altri, invece, con cui voi volete fare l'accordo, almeno la maggior parte di voi, vi mandano a quel paese, almeno il leader. Lei ha riscontrato qualche diversità alla Camera? Cioè è molto più facile parlare con i deputati? Cioè sotto sotto i deputati grillini lo farebbero un accordo con voi o no? Ma secondo me questo fatto che il leader, ovvero Grillo, deve urlare ogni giorno più forte. Leggevo prima un post in cui diceva chi ha votato, chi ci ha votato per fare un'alleanza col PD si è sbagliato a votarci. Sì, sì. Significa questo urlare molto forte che ha qualche problema interno, insomma, probabilmente c'è qualcuno del Movimento 5 Stelle che la pensa in modo diverso, altrimenti ci sarebbe bisogno di urlare. Questo è vero, questo è vero, però la mia domanda era un'altra, cioè lei tra i grillini che ha conosciuto, avrà conosciuto qualche grillino in questo mese, no? No, ma sono molto più, cioè usano toni diversi e credo che in fondo non abbiano quell'idea, soprattutto rispetto agli altri giovani neoeletti come possiamo essere, insomma anche noi del PD, non hanno tutti quei pregiudizi che invece ha Grillo nei confronti dei partiti, in senso cioè fosse per loro una qualche forma di accordo la trovereste o no? Ma lì c'è un tema da sciogliere fino in fondo, cioè ci devono dire se gli interessa fare la rivoluzione in questo paese o se gli interessa collaborare per renderlo migliore. Questo è il Vabbè. E su questo non li sento decisi neanche al loro interno. Per esempio ci devono dire se credono nella democrazia rappresentativa oppure se andiamo tutti a casa, loro compresi, insomma. Siamo qui 800 24 00 24. Oggi Beppe Grillo bastona sostanzialmente i suoi, diciamo la verità. Chi ha pensato di votare 5 Stelle per fare un accordo con gli altri partiti si è sbagliato. E io voglio farvi riascoltare per la terza volta, per la terza volta, e non smetterò mai finché ci sarà Parenzo qui, cioè nei prossimi 20 anni, di farvi riascoltare Grillo che dice in campagna elettorale quello che oggi ripete a chiare lettere. Dunque, voi che siete in Parlamento, che vi fate venire mal di pancia, che parlate con Lattuga e dite no, però lei Lattuga poi alla fine non è così male, non la vogliamo distruggere come tutti gli altri, eccetera, eccetera, e beh, poi alla fine però si scontrano con questo signore. Questo signore che è l'unico motivo per cui loro sono alla Camera e al Senato, perché senza quello che va in piazza, quello che tra poco sentirete, questi qua sarebbero nulla, sarebbero polvere, polvere. Fanno finta di bisticciare PDL e PD-L, ma poi sono d'accordo con tutto sulla cementificazione che avete qua davanti. Ci sono le coprose e c'è l'impregilo. Sulla TAV ci sono tutti e due. Sul conflitto di interessi vanno d'accordo. Sulla nucleare vanno d'accordo. Fanno tutte queste cazzo di manfrine. Hanno già deciso tutto. Bisticciano in Parlamento, poi vanno a farsi due bucatini alla matriciana. Insieme. Beh, è così, è la realtà. A lei invece cosa dicono i grillini in Parlamento, Lattuga? Ma quello di cui si sono accorti i grillini è che in realtà non è vero che il PD e il PDL sono la stessa cosa. Se ne sono accorti subito con l'elezione dei presidenti delle due Camere. Mi ricordo, presente, l'elezione dei grillini il venerdì sera, dopo le prime tre votazioni alla Camera, in cui erano molto orgogliosi del loro voto a Fico. La mattina dopo, totalmente spiazzati, al Senato urla e pianti perché avevano di fronte la scelta tra Schifani Ho capito, però Grillo quello dice... Quello che sta emergendo invece è molto più simile il Movimento 5 Stelle al PDL di quanto sia simile il PD al PDL. Almeno per una cosa, che è un partito personale. Questo è un altro nodo che ci devono sciogliere i grillini e su questo non sono decisi. Chi decide? Solo Grillo o anche loro nelle loro assemblee che dovrebbero fare con lo streaming, ma sono le uniche che non vanno in streaming? Senta, mi faccia capire, lei dice che Bersani sostanzialmente ha fallito, ma adesso il futuro del PD è Renzi? Ma Renzi parte favorito, si giocherà le sue carte e ha delle ottime carte. Ma lei si è pentito? Credo che il momento sia quello che ha le migliori carte in mano. Lei si è pentito di aver appoggiato Bersani, mi dica la verità. Cioè... No, io lo rifarei, sono abituato a essere coerente e l'ho fatto senza nessuna costrizione quella scelta. No, l'ho fatto perché ero convinto che fosse il progetto necessario per il paese. Probabilmente molte cose che sono dentro... a quel progetto servono ancora, serviranno ancora. Però lei dice Renzi probabilmente è il futuro. Io non so, adesso dipende quello che sarà il contesto quando si andrà a votare. Vabbè. Però al momento è oggettivo da osservatore vedere che Renzi ha delle ottime carte in mano nella partita che giocherà e che se vuole giocare queste carte non è un mistero, credo che non lo nasconda nemmeno lui. Un governo Bersani ormai è una roba da lunare, no? Cioè una roba dell'altro mondo, una roba impensabile. È una roba dell'altro mondo, ma siamo in un periodo in cui si possono vedere cose dell'altro mondo. Sì, quindi... d'accordo, però quante possibilità? 5% a un governo Bersani, mi dica la verità, 3%, 4%, 5%, quante possibilità? Sicuramente non tante, perché il mandato è stato assorbito, però ci può essere sempre una sorpresa. Cioè, una sorpresa come... Ma poi l'ha detto anche Bersani, qui non è che noi ci vogliamo... Come dire, vogliamo costringere alla paralisi le istituzioni per fare il governo Bersani. Cioè, se il problema è il nome di Bersani, ne troviamo un altro. Ma, cos'ha che non funziona secondo lei Bersani? Poco carisma, non riesce a comunicare, è un leader d'altri tempi. Cioè, insomma, qualcosa c'ha di negativo, no? Anche lei l'ha appoggiato per carità, però è anche un oggettivo, riesce a capire cosa non funziona nel suo leader. Ma lui ha scommesso, davvero l'ha fatto convintamente anche nella propria coscienza, di poter essere un leader essendo allo stesso tempo un antivivo. Questa cosa in Italia non ha funzionato. Cioè bisogna essere un po' come Renzi, diciamo, un po' piacione, no? Bisogna essere un po' piacioni. Come Renzi, come Grillo, come Berlusconi, come... Insomma, lui ha scommesso sul fatto che non mettendo la propria persona, il proprio ego, l'apparenza anche se vogliamo in primo piano si potesse arrivare a parlare alla testa degli italiani. Non ci è riuscito solo in parte, insomma. Parenzo, sei morto? No, ci sono. Fai le tue solite domande stupide alla Tuca, su. Le tue solite domande stupide. Partiamo da una cosa, la solita cosa che chiedi sempre, su. A parte le donne, io gli voglio capire, non è che vogliamo fare il primo coming out di questa nuova legislatura, caro Lattuca? No, non è che lei... No, per carità, ma non è che noi, lo sai, siamo dei paladini dei matrimoni gay, eccetera, per cui non è che abbiamo niente in contrario. No, ma quello anch'io, però, insomma, non è che posso inventare una cosa per a piacere, no, a noi non deve fare nessun piacere, per carità. No, comunque, però potrebbe da quel essere, punto di vista esempio... siamo eterosessuali, insomma, no? Sì. Sì, no, vabbè, adesso non lo dica così, come sospirando. Cioè, lei la sa l'espressione francese che io utilizzo sempre, no? A voile et à vapeur. Vabbè, non la conosce, vabbè, gliela spiegherò un'altra volta. Parenzo, che c'è? Voglio dire, la domanda... L'argomento la domanda... Froci l'abbiamo liquidato. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? Lo paghiamo, poco, molto poco, secondo me. Poco e vale molto di più, secondo me, questo è il mio parere. Anche secondo me. Vale però, molto di più. La però... domanda, caro Lattuca, è diritto ma fondamentale. Cioè, per un giovane deputato che è appena entrato in Parlamento... 25 anni, chi gliel'ha fatto fare? Io chiedo... No, la prima volta che ha fatto l'amore è questo... Ma la prima volta che ha fatto l'amore, vabbè, la prima volta che ha fatto l'amore... Sì, a che età? Avanti. E se con una compagna o un'infezione? Le domande di Parenzo, che dobbiamo fare? La Tuca, scusi, ma è così. Sì, vabbè, erano gli anni del liceo, insomma. Gli anni del liceo, maggiorenne, dunque, no, minorenne. Ma sì, no, adesso non ricordo nemmeno. Ma c'ha 25 anni, se si ricorda la prima volta a 25 anni, è tutto finito qua. Siamo rovinati. Comunque era fuori dal contesto politico, ho cercato sempre di tenere separati i piani. Ecco, ma scusi, la più bella in Parlamento, l'ha adocchiato qualcuna già? La più bella, che questa invece è interessante come cosa, ci sono più belle nel PDL, diciamola tutta la verità. Cioè. Sì. Ma sì, poi essendoci tante giovani ragazze, ma anche non giovanissime, dalle donne in Parlamento ce ne sono tante. Devo dire che ancora il modo di osservarle tutte non c'è stato. No, però diciamo tendenzialmente... Come il vecchio rimbrotto, conoscere per deliberare prima di decretare. Questo non c'è, non c'è dubbio. Però ma... così un'occhiata alla camera, no? Cioè, nella parte destra c'è più figa o no? Diciamola tutta, ecco. Lattuga, dai, su. Ma sono molto forniti. Credo che se hanno un primato residuo sia solo quello. Però lo dico col punto interrogativo. No, però uno voltarsi, uno si volta a destra e dice, vabbè, almeno qualcosa vedo, no? No, ma non ci si volta, è un emiciclo, quindi ce l'hai di fronte necessariamente. No, beh, sì, vabbè, è vero, lei è a sinistra, quelli stanno a destra di fronte. Ed è un bel vedere, tutto sommato, no? Beh, sì, insomma, c'è qualcuno. La più devo dire che però quello che colpisce anche in questi primi giorni, capisco anche che magari si annoiano, però i banchi del centro-destra sono quasi sempre... semivuoti o comunque quasi mai completo. Comunque la più bella nel centrodestra chi è secondo lei? Chi resta la più bella in assoluto? Ma non, non lo so, forse non lo la so. Carfagna. La Carfagna, beh sì, non c'è dubbio. C'è dubbio. L'ha sognata qualche volta magari. Ma perché sto sognato la Carfagna? Ma Parenzo, ma possibile? Ma sì, cosa fa? Scusa, uno mamma cosa mia, l'ha sognata. Non è, io per esempio non ho mai sognato ma la Carfagna. Ma che cosa fa uno? Ma sei sciocco? No, Airaudo, no, Airaudo io non ho mai sognato. Cioè, Airaudo, allora? Airaudo. Perché c'entra poi il povero Airaudo? Ha messo in mezzo il povero Airaudo. No, ma voglio dire, tra i nomi delle persone, a parte che Airaudo è al Senato, ma voglio dire, non è che uno appunto sogna... Ma non deve sognare. Ma sognerà le cose sue, signor Lattuga. Dove vive a Roma? A proposito, anche lei divide un appartamento? Oppure è un po' più snob se ha preso un appartamento da solo? No, un appartamento da solo. Beh, no, siamo messi bene. La sua famiglia mi sa che è benestante, signor Lattuga, o no? Sono figli di due insegnanti in pensione, nulla di più. Ah, vabbè, allora normale, diciamo. Il bobolo, come dice Parenzo, il bobolo, no? Il bobolo. Il bobolo. Scusi un attimo, ma Parenzo, hai finito le tue domande stupide o no? Lattuga è amico di Bobolo di Palestina e amico di Palestina. Ma non è vero, magari è amico pure di Israele oltre che di Palestina. Molto amico di Israele won't war. I was there in this day. Lo so che sei stato. Now I come in Italy because this is the country of freedom. Of friends of Palestinian people. Lo so, è così. Senta, signora Tuga, le domande stupide le finite, Parenzo? Oppure c'è una... comunque aveva un fondo di serietà questa domanda, l'ultima. Cioè l'ultima quella, su cosa? Su che cosa? No, dice? Sull'amico di Palestina o... Sì, vabbè, quello sa. La grande questione. Senta, la cosa che più le dà fastidio di Grillo qual è? C'è la cosa proprio che non sopporta di Grillo, anche dei grillini, anzi, dei grillini che ha incontrato. Cioè, sono come terrorizzati, sono delle specie di robot. Cioè, sono un po'. Sembrano un po' dei nerds un po' sfigati ogni tanto, no? Ma no, poi c'è un po' di varietà, insomma, ma quello che disturba un po' è che in pochissimo tempo, almeno alcuni di loro, quelli che parlano, penso soprattutto a Crimi e la Lombardi, sì. Ma ieri anche lo stesso Fico che è intervenuto dicendo chiedo silenzio, cioè, non vorrei che nel giro di qualche settimana diventassero più arroganti dei politici che abbiamo conosciuto negli ultimi 20 anni, davvero... c'è questo rischio, dice lei, eh? Li vedo abbastanza gonfiati da quello che è un po' anche l'indottrinamento. Sembrano indottrinati. No, ma è l'atteggiamento che rischia di essere arrogante, insomma. Non è che uno al primo intervento apre dicendo chiedo silenzio, tanto che la Boldrina ha detto lasci dire a me. Quello è Fico, sì. Ma lei è vero che il primo giorno si è messo accanto a Bossi? No, ma noi in questo momento non abbiamo i posti segnati. Vabbè, lei per caso è finito accanto a Bossi? Che... Sì, sono arrivato che c'era Parenzo che mi ha fatto arrivare tardi. Sì. Sono entrato e c'era quel posto libero, insomma. Non è che si è messo accanto, quindi... ma si è presentato? Era accanto, era davanti. Insomma. Era davanti, si è presentato? Per colpa mia è arrivato tardi. Sì, sicuramente sarà colpa tua. Si è presentato a Bossi, gli ha dato la mano oppure no? No, non c'è stato modo perché ce l'avevo dietro, insomma, quindi me ne sono accorto che c'era, ma non... Vabbè, un saluto a Bossi, signor Bossi, no? Cioè, oppure proprio lo disprezza lei Bossi, che non ma lo può vedere. Ma come stava? Ma io non ho grande stima per chi sostiene un certo tipo di tesi, soprattutto nei confronti degli immigrati o dell'Italia. O per tanti anni dell'unità dell'Italia. Insomma. Per cui la mano a Bossi non gliela dà? No. No, non le piace questa cosa. Beh, però la mano si dà un po' a tutti, Lei dice, però ci sono dei confini, dice, siccome l'immigrazione... Ma come l'ha visto? Beh, l'ha visto bene oppure è ormai andato? Poco lucido. Vabbè, dai, ecco, da una parte, politicamente, secondo me, si può essere intransigente e quindi anche decidere di non dare la mano a degli avversari, questo è invece. Sul piano umano, non mi sento di fare ironia sulle malattie, davvero, no? Sulla malattia, sì, degli altri, sulla malattia. Non è il caso. Vabbè, lo facciamo noi che siamo degli stronzi. Ecco, voi lo potete fare, tanto siamo degli stronzi, insomma, diciamo la verità. Alla fine siamo. Lei si è mai fatto una canna in vita sua? No. Come mai non pratica? Come Parenzo questa cosa? Lei se n'è accorto che Parenzo è un mezzo e praticamente si fa, no, di hashish ogni giorno praticamente, no? Se n'è accorto? Se n'è accorto lei? No, no? Mia presenza, ma non è vero. Fatto, sì, però se, è palese, lampante, no? Che si fa un paio di canne al giorno almeno, no? Cioè, no, si vede, ma chi ha il giorno? Ma lo si vede mezzo addormentato, un po' così, no? Ho detto che caracolla capitato in mezzo alla strada. Ma quasi mai. Vabbè, comunque, legalizzazione sì, però, signor Lattuca. Ma io ho visto che ad Amsterdam stanno tornando indietro perché non era una strada che ha prodotto. Ah, lei è contro la legalizzazione? È interessante, no. Sì. Beh, sì. Oh, perché uno deve essere per forza a favore della legalizzazione. C'ho Lattuca, il deputato. Comunque, adesso, cioè, visto che parliamo della paralisi istituzionale, non mi sembra l'emergenza del momento. No, l'emergenza del momento sicuramente non è. L'emergenza... Lei chi farebbe presidente della Repubblica? Concludo. C'è una persona che proprio lei voterebbe, anzi, che sicuramente. Ma voterà come saranno le indicazioni del partito oppure voterà come gli pare a lei? La mia poca esperienza mi insegna che i nomi che escono prima del terzo scrutinio sono i nomi che prendono fuoco, e quindi il nome che spero io non lo farò. Dico il profilo. Beh, adesso Lattuca, il profilo lasciamo perdere. Ma adesso, lei è un voto, dire, avrà un ideale. Cioè, adesso non è che lei dice una cosa e questo nome è bruciato. Se la dice da lei, mi è bruciato, con tutto il rispetto. No, per lei. Lo so, però parlare di, insomma, mi sembra prematura. Poi non ma come prematura? Adesso se vota il 18, vota pure lei. 15 giorni mancano. Ma no, ma un suo ideale, in questo momento, il suo nome preferito, chi è? Zagrebeschi, Rodotà, Bersani, D'Alema stesso. Beltroni, che ne so, un nome lo fa, cioè, voterebbe... Zagrebeschi sicuramente ha lo spessore per fare una cosa del genere. Zagrebeschi è il suo nome preferito? Sì. Bene. Uno dei preferiti. Si ragiona sempre per rose quando le rose, dice, mamma mia, lei è diventato già come gli altri, una tragedia. Grazie. No, ma io ho fatto la tesi di laurea sui presidenti della Repubblica. Lo so, sono informatissimo, anzi non lo sapevo, me l'ha detto, non so. Sto bleffando clamorosamente. Grazie Lattuca, a presto, molto gentile. Arrivederci. Domani c'è uno show davanti al Tribunale di Milano, accorrete tutti. Alle 10.30 la nipote di Mubarak, cioè Ruby Rubacuori, cosa fa? Beh, manifesta per il fatto che non l'hanno fatta parlare al processo. Cioè non l'hanno voluta né gli avvocati di Berlusconi, né la pubblica accusa, perché aveva già tutto blindato con gli interrogatori, no? Ma perché uno protesta perché non hanno fatta parlare in tribunale? Io non riesco a capire. Ormai è uno show quel processo. Una cosa pazzesca, non si capisce se questa mossa è in pieno accordo con gli avvocati di Berlusconi, contro i quali in parte protesta la stessa Ruby Rubacuori, oppure no, oppure è una strategia chissà quale, oppure è semplicemente visibilità. Io ricordo l'ultima intervista televisiva di Ruby Rubacuori, se non ricordo male, ultima intervista televisiva nel mese di ottobre all'Ultima Parola. No, anzi no, che Ultima Parola? Da Santoro. Berlusconi almeno ha provato a fare sesso con lei, ci ha provato? Ma il chiedermelo in maniera esplicita, mai. Fra 30 ragazze. Lui capisce dove può e dove non può. Dove non può. Resta alla ragazza a farglielo capire. Si ballava giù, come funzionava? Sì, si ballava. Ognuna faceva quello che riteneva giusto fare. C'era la ragazza più spigliata, quella meno spigliata, c'era quella che lo voleva fare, quella che non lo voleva fare. E se si era lì, se lo volevi fare lo facevi, se non lo volevi fare ti stavi seduta sul divano a berti il tuo bicchiere e poi quando finiva la serata ognuno tornava a casa sua. Però balletti arte. Sono sempre liberi, maggiorenni, vaccinate, e l'unico problema ero io. Sofia si chiama tua figlia, no? Sì. Se Sofia ti chiedesse, voglio andare ad Arcore a 17 anni con uno pseudo Berlusconi, te sinceramente ce la manderesti o no? Assolutamente no. Domani grande show davanti al Tribunale di Milano, ore 10.30, correte tutti, Alessandro, provincia di Messina, poi accorrete tutti, ma chi se ne frega in fin dei conti, no? Beh no, appunto, sembra un no, accorrete tutti a vedere questo grande show della mia nipote di Mubarak, impegnata a spiegare davanti al Tribunale di Milano perché, con tanto di cartelli pare, perché... non l'hanno fatta parlare in tribunale. Cioè lei vuole essere audita dalla signora Boccassini, questo è il punto. Esatto, sì. Però né gli avvocati di Berlusconi né la pubblica accusa l'hanno voluta in tribunale per comunque motivi di... ti segnalo per cambiare argomento, non l'ho legata, non mi è venuto in mente per la questione della no. La signora Carfagna, non lo dico perché che propone l'abbonino al Quirinale, sì vabbè d'accordo, ecco, allora questo no, guarda, non merita nulla perché io non ammetto che tu faccia una campagna per l'abbonino al Quirinale, cioè no, ecco, appunto, hai tirato il cesso, la catena del cesso, ed è la mia risposta. Ma dopo 3 ore di viaggio in aereo ho tirato, ma è possibile? No, ma è la mia risposta, ma è giusta, ma hai fatto benissimo a farlo, sai, hai fatto benissimo, ed è la mia risposta alla proposta della Carfagna, Alessandro, no, della provincia di Messina. Anzi, io la vorrei al Quirinale, la Bonino. E invece io al contrario, hai tirato il cesso ed è la mia risposta, Alessandro della provincia, per Posso? Carità, sarebbe una tragedia totale, Alessandro della provincia di Messina. Come Ferrara, cos'è che ha detto Ferrara? Scusi Alessandro, ha detto che si fa esplodere, no, si fa esplodere se c'è Gino Strada. Se c'è Gino Strada. Gino Strada si fa esplodere, numero uno. Ma che abbiamo? Si butta dal palazzo se c'è la Bonino. Vabbè, sentiamo qualcosa di Ferrara. Ho fatto un tweet, ho già detto del suicidio della Torre Velasca nei casi Rodotà eccetera, con Bonino mi faccio seppellire vivo, invece Gino Strada, buff, l'esplosione di Ferrara con Gino Strada al Quirinale, che è un evento assolutamente impossibile, lo sai, no? Ah, scusa, bisognerebbe chiamare il vero professor Ludwig che chiedegli un parere sull'ipotesi di Gino Strada al Quirinale. Eh sì, effettivamente, perché il signor Ludwig con Strada ebbe una durissima polemica tempo beh fa. Sarebbe, com'è che scusi signor Ludwig, no, ma noi ce l'abbiamo qui in casa il signor Ludwig, noi ce l'abbiamo sempre collegato Ludwig, scusi, sì. Mi spiega un attimo come reagirebbero gli Stati Uniti all'eventualità di Gino Strada Presidente della Repubblica? Noi abbiamo fatto riunioni al Pentagono e pensa che il signor Strada è pericolo colossale per Europa e per il mondo. Ma come colossale? Che vuol dire? Colossale. Abbiamo preparato una cosa che noi chiamiamo di hard power, e cioè ipotesi di bombardare il Quirinale nel caso il signor pericoloso Emergency, che cura terroristi in tutto il mondo, sì, possa prendere mano dentro questo Quirinale. Noi abbiamo già preparato con ambasciata un attacco militare per fare extraordinary rendition del signor Strada. Ma che c'è da extraordinary rendition con Strada? Extraordinary rendition, prenderlo e portarlo nel salotto di Guantanamo, dove si insegna democracy. Ma insomma, proprio democracy no, eh. Vabbè. Salotto? Ho è capito. Un salotto che sì, tiene sì, va bene, grazie Ludwig, collegamento finito con gli Stati Uniti, che ci costa un sacco di soldi. Ecco, Parenzo tira il cesso, Alessandro... No, che troppa carta. Scusi Alessandro, che sta dicendo? Troppa carta. Pronto? Sì, mi dica. Ah, sì. Intasato. No, volevo dire questo, signor Cruciani. No, Parenzo lo pagate, chi era? Ah, sì. Chi è che diceva questo? Si è intasato il bagno. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? Alessandro, allora? Ecco, volevo dire questo. Siccome sento spesso un riferimento agli dipendenti pubblici. Sì, sì. E sicuramente non in termini positivi. No, ma io non ho detto né in termini positivi né negativi, ho semplicemente detto che ci sono dei dipendenti pubblici privilegiati, come i dipendenti di Camera e Senato, che prendono 4 volte quello che prendono i dipendenti della House of Commons in Gran Bretagna. Ha ragione di lamentarsi. Eccetera, eccetera. Punto, basta. Sono dei privilegiati, punto. Uno deve riconoscere, sì, uno dovrebbe chiamare. Sì, è vero, sono un privilegiato. Ho avuto un culo così nella vita perché sono capitato in un posto dove per motivi più strani, più bizzarri, ho un privilegio rispetto agli altri dipendenti statali che non se la passano come me. Sì, perfettamente d'accordo con lei. Basta, solo questo. È giusto che si lamenti anche lei, perché il suo giornale riceve un finanziamento pubblico di 19 milioni. La carta, le agevolazioni della carta e le spedizioni, sì, è vero. È allora? Vero. Ecco. Tra l'altro, poi mi è capitato per caso così un elenco di giornali che ricevono finanziamenti. Sì. Ma cose assurde, cavalli e corse, 2,5 milioni, linea, 2,5 milioni, manco so che sono, il denaro, 2,4 milioni. Tutto da cancellare, secondo me, tutto da cancellare. Quando si parla di sperpero... Tutto da cancellare, per me è tutto da cancellare, non ha capito ancora Alessandro, per me tutta questa roba qui è tutta da cancellare, togliere, via, cancellare, spazzare via. Lei dice, compresi i soldi che prende il sole, Sole insieme agli altri giornali, sì, anche questi, però decidiamo ovviamente quello che deve essere agevolato e quello no, allora togliamo tutte le agevolazioni fiscali per un sacco di iniziative economiche, cioè, esattamente. No, per questo, una cosa sono i giornali linee di partito, una cosa questo sono tutta l'editoria italiana che prende dei soldi. Fosse per me, abolirei qualsiasi cosa, qualsiasi agevolazione fiscale dello Stato. Cioè, abolirei, però... Semplice utopia? No, utopia non è utopia. Non perché è utopia. Non lo faranno mai. Non lo faranno mai, assolutamente. Quindi, ma quello che vedo da questo elenco di giornali che ricevono finanziamenti... Sì. Cioè, ma veramente, cioè, da mettersi le mani nei capelli. Lo so, però Alessandro, cioè, adesso il problema dell'Italia non è che sia il finanziamento ai giornali, però oggettivamente se uno pensa, tra l'altro Grillo lo dice non spesso. Non si capisce cosa siano. No, cioè, ma lei ha ragione. Si chiama democrazia cristiana. Sì, come no, voglia. Attestate che si chiama il denaro. Sì, il denaro di Napoli, noi siamo stati anche ospiti, siamo stati anche ospiti al denaro a Napoli quando facemmo la diretta per le elezioni, per carità, sono bravissime persone. Sì, sì, adesso non lo so a che titolo, non so a che titolo lo prendono, probabilmente finanziamento pubblico, nel senso là c'è una testata di partito, adesso non lo so. Guardi, ce n'è una che è carina, Corriere Canadese. Pure quello, sì. Corriere 2.800.000 euro. Ma dove stiamo? Ma di che parliamo? Ma non ho capito, ma perché si fanno le elezioni? Dovrebbero essere abolite. Tra l'altro vedo che lei è un fan di Movimento 5 Stelle. No, io non sono affatto fan. Voi distinguete. No, ne parla votato 5 Stelle. Sì, ma certo. voi non sapete distinguere. C'è una malattia in Italia. Se uno dice una cosa a favore di una... perché è in un frangente per una, per una questione a favore di un movimento, di una persona, eccetera, automaticamente dire lei è un fan. Ma quale fan? Io odio essere fan. Odio i tifosi, odio... Da come ne parla non sembra. Ma non è vero, ma li critico ogni giorno, ma li piglio per il culo ogni giorno. Giacomo, li piglio per il culo ogni giorno questi 5 Stelle. Lo fa per provocare l'ascoltatore. Ma no, ma io lo faccio perché sono fatto così. Su questo ci riesce perché è provocante effettivamente. In ogni caso io volevo manifestare questa veramente assurdità di finanziamenti su testate, cavalli e corse, non capisco che cosa c'entri, dovrebbero essere partiti, cioè... No, ma lei ha ragione, lei ha perfettamente ma ragione. Ma che vuol dire? Cavalli e corse, 2.500.000, ma a chi gli serve? Mm. Agli scommettitori? Adesso non mi ricordo bene a che titolo... No, glielo sto leggendo a io. A che titolo si prende? Cavalli e corse riceve 2.530.638,81, ecco, per dirla tutta. Stiftung sul Tirole, ma qua insomma si sbizzarisco, ma così mi faccio una testata giornalistica pure io. La chiami... Il più scarso cristiano sociale in US prende 57.000 euro. Ma lei ha perfettamente ragione, Alessandro. Cosa proprio, guarda, un'assurdità. Un'assurdità, spesso si fa politica anche per questo, per ottenere piccole prebende. Grazie, e poi grazie. Ci mettono 0,30 centesimi di Tares. Bravo, bravo. E poi ci chiedono i soldi, ci chiedono, forse, non si sa ancora, speriamo di no, ci vogliono chiedere i soldi per la questione della, no, per togliere... Per pagare le imprese, no? Cioè lo Stato per anni non ha pagato le imprese, ha i debiti con le imprese, un sacco di soldi, un sacco di milioni di euro, adesso vuole che li paghiamo noi, capito? Francesco da Pistoia con le tasse, se lo scordino, Francesco. Sì, salve, vorrei dire due cose. Uno, vorrei ridimensionare il Reuccio di Salerno perché l'aria strafottente ce l'ha principalmente lui quando parla e quando va a giro a Salerno. Non mi tocchi il Reuccio di Salerno. Non mi interessa, io ho visto va a giro con 3 o 4, l'ho visto con i miei occhi. Ma che 3 o 4 auto blu. Ma che 3 o 4 auto blu, ma sarà la scorta, dai. La scorta è uguale. Ho capito, sarà la scorta, Francesco, non è che decide De Luca se deve avere la scorta o no, abbia pazienza. Sì, però su. L'aria da Reuccio ce l'ha. Vabbè, ma sì, ho capito, ma perché bisogna uno dice delle cose, ora per carità, discutibili, ma adesso dare dell'arrogante a una persona così perché gira con la scorta mi sembra una cosa un po' semplice. Se va a vedere a Salerno dentro le manifestazioni non è solo la scorta che va a giro con lui, non è solo la scorta. Lei scusi, dove abita? A Pistoia o a Salerno? Non ho capito. Io per lavoro vado a giro e mi sono trovato a manifestazione come a Salerno dove è venuto il sindaco e non era solo scorta. Ve lo domandi, tanto lo chiama spesso. Seconda cosa, io non capisco come mai la maggior parte dei giornalisti o ha un copione che sta leggendo che gli viene mandato dai politici, allora a quel punto li capisco, oppure se sono tutti convinti di andare contro il Movimento 5 Stelle, compreso Parenzo, perché io lo potrei anche reputare una persona intelligente, Parenzo, se gli viene dettato un copione da un partito, ma se lui è convinto veramente di quello che dice, allora mi preoccupa. Questo sì, veramente. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua, sai. Eccoci Andrea da Como, buonasera, ultima mezz'ora, restate lì che c'è ancora tanto, tanto da ascoltare, grandi sorprese fra poco arrivano, Andrea. Buonasera. Vada, vada. Si sente? Sì, ecco, sì. Spero non ci sia troppo ritorno. Guardi, io la butto lì con ironia, ma non troppo. Visto che l'Italia è arrivata un po' a livelli di certi paesi, mi domando se non sia arrivato il momento di un colpo di Stato, un colpetto anche. Eccolo qua, magari. La cazzata delle 20:35 doveva arrivare, Parenzo. Doveva arrivare per forza la cazzata delle 20:35. Qua è il colpo di Stato, avanti, su. Andrea, forza, avanti. No, dicevo, magari la dica tutta. So, un generalissimo, anche un maresciallo, anche un vigile del fuoco andrebbe bene in questo momento. No, visto che... Ma un vigile del fuoco per fare cosa, scusi? Per fare no, cosa? No, appunto, lì dicevo, per dire che anche un Ghisa ormai andrebbe bene. Per governare l'Italia, no, dice lei? Mettiamo, non so, in mano tutto ai militari, sì. Torniamo indietro di 60 anni e vediamo che succede. Magari le cose andrebbero a posto in Italia, eh? O no? Non lo so, Andrea, mi sembra una cazzata, su, adesso lei sta provocando, cerchi, certo. Lo capisco, però vada al sodo. No, il sodo è questo, è che a pensarci, io non vedo altre soluzioni, cioè... Oh, si va una rivoluzione, è impossibile tornare a votare, cosa facciamo? Buttiamo via altri 600 milioni di euro di nuove votazioni? Guardi, i soldi che vengono usati per votare non sono mai buttati. Andrea, grazie. Giacomo da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Ricollegandomi anche a quello che ha appena detto l'ascoltatore, non avete ancora fatto un'analisi seria del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è composto meno male che non l'abbiamo di fatto. Quel 25%, il 50% è lo zoccolo duro, credere, obbedire e combattere sono quelli pericolosi, sono quelli dell'olio di ricino, sono quelli dei manganelli. L'altro 50% è fatto da tutti i radical chic come lei, che l'hanno votato perché faceva chic dirlo, perché così lo possono raccontare, ma che non vogliono. Guardi quello che secondo lei ho bisogno di raccontare all'esterno che voglio, no, che voglio dare lei, ma molti possono andare, no, al bar, c'è un fighettismo, votato, c'è una, certo, parte, ma... di snobismo, ma... italiano di sinistra, esatto, che ha votato però... Beppe Grillo e adesso invece vuole fare l'accordo col Partito Democratico. Si chiamano e si lamentano, no, ma sì, dobbiamo, ma... fare di qua, e poi li sono tutti a prendere calci nel culo perché hanno consegnato l'Italia all'ingovernabilità dando credito a chi vuole il 100% del consenso, e l'ha sempre detto, e sono tutte cose che ha sempre detto, e adesso si scandalizzano. Di cosa vi scandalizzate? Le ha dette tutte quelle cose, le ha dette tutte, bravo, è andato, bravo, avanti, bravo, un anno a dirle queste cose e l'avete votato, e adesso vi lamentate. Siete una manica di coglioni, siete una manica di coglioni. Ok, e però bisogna ridimensionarlo quello, perché se non lo si ridimensiona e non gli si dà la dimensione vera che ha il 10%, diventa pericoloso. Un attimo. Ah, vabbè, Marco da Roma, su. No, è Vittorio al solito. Marco da Roma. Sì, pronto? Eccomi. Sì, Marco, ecco. Dica. Sento ritorno. Mica è colpa mia. Allora, se Bersani avesse tutte queste intenzioni di fare un'alleanza, provare un alleato, significa avere gli stessi obiettivi e gli stessi programmi. Cominciasse a liberare il rimborso elettorale, 158 milioni di euro. A proposito, caro Marco, bravo che hai introdotto questo argomento, molto bravo. Innanzitutto il rimborso elettorale metterebbe nei guai il Partito Democratico, come ci ha rivelato la settimana scorsa il tesoriere Misiani, quando abbiamo fatto lo scoop, sì, su Italia Partito Democratico. Però qui c'è un'altra questione. Oggi, interpellato credo dall'Huffington Post, Misiani ha detto: noi siamo contro l'abolizione del finanziamento pubblico. Cosa è accaduto oggi al Senato? Per voi che ci ascoltate sono tutti gargarismi parlamentari, però qualche volta importanti. Alcuni senatori di area renziana del Partito Democratico hanno presentato un disegno di legge per l'abolizione del rimborso elettorale, del finanziamento pubblico ai partiti in sostanza. Benissimo, io lo sottoscriverei proprio alla grande, come sapete. Il problema è che subito il tesoriere del PD ha detto: no, non è la posizione del Partito Democratico. Allora chiariamoci. Qual è la posizione del Partito Democratico? Che il finanziamento pubblico deve restare. Allora, cosa diavolo cercate l'accordo con Grillo? Cosa diavolo cercate di ottenere da Grillo che vi faciliti al governo, quando sulla cosa fondamentale, su una delle ragioni d'essere dei grillini, siete in netto contrasto? Cioè, è questo il punto. Grillo vuole l'eliminazione del finanziamento pubblico perché i partiti li vuole distruggere, in particolare il Partito Democratico. Benissimo. Allora, cosa cerchi l'accordo con Grillo quando tu sei invece a favore? Perché lo ha detto chiaramente oggi, magari in forme diverse, eccetera. Lo ha detto chiaramente oggi il tesoriere Misiani. Ha detto anche che la posizione presa dai renziani, che in questo caso è più vicina alle posizioni di Grillo, è una posizione diversa da quella del partito. Anche se, devo dire, nelle ultime sue uscite, Bersani, no, quando corteggiava la grande Grillo, aveva cercato di, sì, superiamo il finanziamento pubblico attraverso... È da rivedere le modalità, certo, da rivederne i costi, le modalità, più trasparenza. Ah, non è che ha detto lasciamo tutto così. Vabbè, sì, vabbè, va bene. Marco, allora... No, per te, tutto dire, uguale. Ma... So io, a quanto ne disse Grillo nei primi... Io a parte sono, mi reputo uno spacciatore di Grillo, perché lo seguo dal 93 e tutti i suoi spettacoli li devo dare a mamma, ma da prima che si mettesse in politica. Ma queste cose lui le ha sempre detto, sono 20 anni, non è un giorno o un anno. Adesso dicono non c'è programma. La cosa grave è che il rimborso dovrebbe essere, loro già se lo sono speso, perché gliel'hanno scontato le banche, gliel'hanno dato come anticipo e come garanzia, già l'hanno preso, apposta è difficile di darlo. A quanto ha detto lui. Un'altra cosa, sul fatto di... Cioè la sì, ma lei sta parlando col viva voce o con l'auricolare? Se no, giù, non c'ho il telefono, non c'ho... Ho capito, si sente lontano. Comunque, allora? La sinistra si è bruciata 8 leader in 20 anni. Prima diceva qualcuno, dice, è un leader diverso da quel... Ma un leader è un leader, è uno che lascia un segno. In ogni leader della storia, Martin Luther King, I have a dream. Sì, allora? Cioè che ognuno ha una frase che ti rimane impressa. Bersani ti scivola addosso, non ti ricordi niente di Bersani. Certo, ho capito. Certo. Perciò un leader è uno a cui vai a... Non ti dici... Capito perfettamente, grazie. Siamo qui, sai che oggi, Valenzo, l'hai detto prima, la Carfagna ha candidato l'abbonino al Quirinale. Ha candidato l'abbonino al Quirinale. Ma tu hai questa fissazione dei radicali, questa fissazione dell'abbonino al Quirinale, che sarebbe secondo me una tregenda assoluta. Una tregenda. Ha fatto tanto per questo paese. Ma tu ti immagini Pannella cosa diventerebbe? Una cosa pazzesca, ogni giorno al Quirinale a rompere i coglioni, una cosa infinita. Vittorio! Eccolo! Ma dillo anche tu che è una buffonata sta cosa dell'abbonino, su, dai! No, è una cosa alla moda. Ma che alla moda, dai! Il fatto che l'abbonino è comunque una persona presentabile e rappresentativa. Sì, va bene, d'accordo. Però è stata eletta con il centro-sinistra e quindi sarebbe buona cosa che la proponesse Bersani. No, non è stata eletta, nella scorsa legislatura. È stata eletta con il gruppo dei 9... Era vicepresidente del Senato. Ah, nella passata legislatura, sì, nella passata legislatura. Sì, appunto, dico, è stata eletta allora, per cui il referente culturale è diventato il PD. Sì. Questo non vuol dire ovviamente che bisogna candidare il PDL, bisogna evitare... Ma ti piacerebbe l'abbonino o sarebbe una tragedia, secondo te? No, non è una tragedia, è una persona di capacità collaudate e di garanzie. Però dico, non rappresenta nulla che abbia a che fare col nuovo e nulla che abbia a che fare con la cultura. Ah. Ora, se tu dici davanti al mondo Bonino, dicono bene, è una brava funzionaria. Se dici Riccardo Muti, siamo qui. Dici un nome che tutto il mondo rispetta, che ha scritto nell'intervista fatta l'altro giorno, che ha dichiarato a Cazzullo che occorre creare armonia fra le parti discordanti, esattamente come fa un direttore d'orchestra. Vabbè, questa è una buttanata. Insieme alla cultura c'è un elemento fondamentale che se lo propone il centrodestra e butta la palla in campo oggi anche Paolo, Libero lo ha proposto appunto, Libero poi lo stanno ponendo il giorno come senatore a vita. Se ha nominato senatore a vita Monti Napolitano può nominare perfettamente Muti come ultimo atto pieno del suo mandato, perché non può sciogliere le Camere, può nominare però un altro senatore a vita. Ma il senatore a vita senza stipendio, anche certamente nella introduzione alle funzioni politiche, per di più un grande direttore d'orchestra e grande compositore, grande musicista, Paderewski, sì, fu presidente del consiglio, ma ungherese, allora, in Ungheria dov'è? Esattamente, allora in questa condizione l'idea che noi abbiamo un Presidente della Repubblica che non ha le funzioni operative del Presidente del Consiglio non diventa tanto una cosa che piaccia o non piaccia, corrisponde a destra o a sinistra, diventa imbarazzante dire di no a Muti da parte della sinistra, da parte hai capito? Parenzo, che cos'è che non va bene in Muti? Parenzo, dimmela. Ma no, ma non capisco adesso perché Vittorio si mette anche a suggerire chi deve fare il Presidente della Repubblica. Ma perché non lo può fare? Che c'ha il minus Abels, non l'ho capito. Ma certo che può, ma chi se ne frega, cioè, ma perché adesso perché non ti piace Muti? No, perché non ti piace ma Muti? Ma fa il direttore d'orchestra, ci vuole uno che rappresenti il paese, che sappia, Labonino è riconosciuto in tutto il mondo per quello che ha fatto. Ma che è il Muti? Non Labonino, Labonino è riconosciuto da te e dai funzionari come te, funzionari di partito ideali, Muti è riconosciuto in tutto il mondo perché il mondo è l'arte italiana, non è la merda vostra, dei Prodi, dei Marini, degli Amato e dei Berlusconi, non è quella merda lì. L'Italia è la sua civiltà e se non l'avete ancora capito cosa c'entra? Allora Muti sarebbe un trionfo per tutto il mondo, come lo è stato Senghor. Apparenzo la storia del Senegal, troviamo un poeta, sì, come certo lo è stato Havel. La mancanza di coraggio di indicare un uomo di cultura è la viltà degli ignoranti. Parenzo, ma allora perché non Umberto Eco? Ma che sciocchezza allora, è? Cioè, lì ci vuole. Certamente la sinistra può rispondere con qualche nome, uno dei quali è Veronesi. Veronesi sarebbe un'ottima risposta. Ottimo, sarebbe ottimo, sì, ottimo. L'unico limite ma di Veronesi, quindi, avere 82 anni, è il fatto che Grillo lo chiama Cancronesi. Avremo il vantaggio di avere uno che viene guardato. Magari fosse così. Grillini, magari. Però partire da Muti per il centrodestra vuol dire partire da un moderato, come lo vuole Berlusconi, sì, non colorato, capace di pensieri giusto, autonomi. Giusto, leggi giusto l'intervista del Corriere, se vuoi capire. Ma cosa è giusto? Parenzo vuole Prodi, Parenzo vuoi Prodi tu? Tu vuoi Prodi? Vuole Prodi, vuole Marini, vuole qualche... Ma io credo ad esempio che Prodi o Emma Bonino sarebbero due ottimi presidenti della Repubblica. Pessimi presidenti, simboli di un passato perdente e sconfitto. Una incapace di prendere lo 0,3% con il partito suo. Amnistia, ma cosa c'entra? C'entra. È un uomo di parte e fazioso. Ma il problema qui non è... Ha ragione Vittorio, su. Ha ragione. Ideale per il PD. Il problema ma è quello deve fare il direttore d'orchestra che ne sa delle... Il centrodestra deve avere il coraggio di dire un nome che metta sull'attenti la sinistra, che li metta in difficoltà. Altrimenti se indichi Letta o Ipera fai ridere. Qual è l'obiezione, Parenzo? E Muti che cos'è no, che deve fare? No, ma non è l'obiezione, non è sul nome di una persona straordinaria. Vabbè, allora che, è un uomo che deve di fare cultura, che cosa? È, che è, una, è tecnicamente una strozzata, perché il Presidente della Repubblica non è un direttore d'orchestra, ha un'altra funzione, no? Mi pare abbastanza un evidente. Un direttore d'orchestra è un uomo di pensiero. Allora, Havel, lo ricordi Havel, Capra o no? Lo ricordi Senghor o no? E allora che cazzo dici? Ma che c'è adesso Havel? Nobel si è candidato e ha perso per un pelo le elezioni in Perù. Ma sì, ma il Presidente della Repubblica, poi ci sono i consiglieri che ti aiutano nei momenti difficili, su, ma dai. No, ma poi il problema non è tanto che debba essere eletto dal parere di un mediocre come Parenzo, ma che sia una capacità di dire un nome forte da parte della destra, che non ce l'ha. La destra deve mettere in soggezione la sinistra, deve costringerla a riflettere su un nome a cui dire di nuovo. Ma scusa, ma non è una gara! Ma come non è una gara! E che cos'è allora? Scusa. Dici, cos'è in questo momento se non una gara? Ma certo che è una gara! Ma non deve essere una gara, deve essere una figura. Ma vedi che sei proprio ragioni nella logica dello scasso, cioè deve essere una ma figura ma che scasso, che Muti è lo scasso? È l'armonia, ma tu dici, togliamo Prodi e Labonino, di un nome di centrodestra che la destra può dire avendo una ma qualche Labonino, possibilità. Labonino è un nome che può andare bene sia al centrodestra che al centrosinistra. Ma che? Perché no, qui è diverso, il centrodestra vuole dire un nome, io non sto parlando... Le pompe di... c'è Ferrara, Ferrara che tirerà fuori le pompe per abortire... Ho fatto un fitto, ho già detto del suicidio della Torre Velasca nei casi Rodotà eccetera, con Bonino mi faccio seppellire vivo. Zanzare, una parola. Oh, Sgarbi è caduto, eh? Stefano, provincia di Pistoia. Perché non ti piace Muti, presidente della Repubblica? Non capisco. Ma non c'è, tu ma mi piace moltissimo. Resti dentro il circuito, il cerchio della politica tradizionale. Magari no, ma sarebbe una grande sorpresa, Muti. Riccardo Muti là con l'orchestra al Quirinale. Ma appunto, cioè Muti va benissimo volendo uomo di cultura, ma il senatore a vita, ma che c'entra il presidente della Repubblica? È un'altra roba. Oddio mio, ma Vittorio parla di altre cose, parla un nome, diciamo, non dico di destra, ma un nome dice. Di quell'area Vittorio lì. Fa solo per fare casino. Vittorio lo fa solo per fare ma casino. Ma che per fare casino? Ma che dici? Solo per fare casino. Vittorio, rispondi alla capra. Quello che lui sta dicendo è la prova della sua minorità, perché io ho detto un nome per i cazzi miei e rimane tale. Non è colpa mia se senza parlare con me Belpietro, che è un giornale di centrodestra, prima pagina, e Mazzucca, che era un candidato, poi deputato del PDL, sì, comunque direttore del Giorno, propone, a mia insaputa, ma mi ha chiamato oggi, il Muti senatore a vita. Sono due prove interessanti che il centrodestra cerca qualcuno che sia proponibile, non solo senza vergogna, ma con orgoglio, perché se tu dici Letta, ti ridono dietro. Se dici un qualunque nome di centrodestra, certo, dicono, vi diamo il nostro di centrosinistra. Ma infatti non deve essere un gioco di partito, deve essere allora, una figura che ha il consenso di tutti. Stai vivendo sulla luna, la richiesta del centrodestra, l'ha fatta il centrodestra, ha detto lo vogliamo. Ma perché la Carfagna? Perché la Carfagna? Perché la Carfagna se ne uscì? Interpretare quegli identikit. Perché la Carfagna se ne è uscita con questa cosa? Perché secondo te ha una testa pensante la Carfagna? Che ne so, dillo tu. Perché è una donna, perché ha fatto il ministro delle pari opportunità. Ah, per queste cose. La manderà a fare in culo, cosa vuoi che faccia? Che prenda veramente la Bonino? La indichi Bersani la Bonino per dare la prova di uno del PD che però è autonomo. Perché il problema è uno di una parte o dell'altra che sia. Perché autonomo. Adesso inizierà questa tarantella sulla donna al Quirinale, che fastidio. Mamma mia, che tarantella fastidiosa, per forza. Ma perché la tarantella? Perché è una tarantella, per forza una donna. Ma tu sei proprio Parenzo, è quello poi politicamente corretto. Se c'è una cosa che dice, beh, sicuramente è d'accordo Parenzo. Adesso ci vuole per forza la donna al Quirinale. Ma posso dire una cosa? Ma chi se ne frega della donna al Quirinale? Io me ne fotto della donna al Quirinale. Voglio una persona, non una donna. Che cazzo vuol dire una donna al Quirinale? Diciamo la verità. Non vuol dire nulla. Allora mettiamoci la Solalella, se fosse in vita. Mettiamoci Annarella, allora. La mitica Annarella. È talmente evidente, dai, che in questo paese le donne sono, come dire, messe a parte. Ma quale messe a parte? Ma che dici? Dici delle follie. Ma questo è abbastanza evidente. Allora, è bello che una donna del centrodestra come la Carfagna, che ora secondo Sgarbi non capisce nulla, abbia candidato una figura come Emma Bonino. Scusa, perché secondo te è politicamente intelligente la Carfagna, perché no, per curiosità. Ma no, ma che c'è? Io non do giudizio. No, perché è un genio della politica, adesso è diventata per te anche un genio della politica. Ma non è questione. Ma non lo so, dimmi, è diventato un genio della politica semplicemente perché propone la Bonino alla presidenza della Repubblica. Valuto di volta. Cioè, è contraria. La Bonino è contro qualsiasi cosa, a parte l'economia, che ormai se l'è dimenticata. Ma ci sarà un motivo se la Bonino piace sia a destra e a sinistra? Ma a destra siete chi piace? Due cialtroni, tu e il tuo amico Vittorio. Vittorio, urla. Rispondi un attimo. Possiamo dire che nell'intelligenza della tua risposta al poverino hai detto persona. Persona è femminile, quindi la femmina che cerca lui è una persona il cui merito prescinda dal sesso. La Bonino ha un merito non perché è una donna, ma perché è una persona. Certo. E Muti ha un merito perché è una persona. Ma il problema non è la persona della Carfagna che indica una donna perché è una donna e non perché è una brava persona. Il problema è un altro, che siccome non l'ho detto io, che non avrei bisogno di nessun Muti per fare la mia parte, ma ha detto Berlusconi, noi vogliamo il Presidente del Consiglio, deve essere un moderato, sì, di centrodestra, io non a Bersani, ma a Berlusconi, sul piano strategico, propongo, eletto o non eletto che sia, e non perché è la figura migliore del mondo, sì, ma perché sì, è un'arma opportuna per il centrodestra, di dire il nome di Muti. Punto. Quindi non è che siamo arrivati a eleggerlo, sì, no, siamo certo arrivati a dire il centrodestra, no, ma ci sarà di dire un nome di un moderato che non sia iscritto a nessun partito, ma che sia una persona di cui tu, a partire da Berlusconi, a finire da Letta, sì, hai considerazione, sì, certo, e non è fazioso. Vabbè. Ma ci sarà un motivo. Comunque siamo solo all'inizio, Vittorio, ne riparleremo. Ci sarà però, scusami, un motivo se la Carfagna ha fatto il nome della Bonino. Ma la Carfagna non conta un cazzo, dai, su. E non quello di Sgarbi. Ma che c'entra Sgarbi? Perché una donna le pari opportunità dovrebbero andare finalmente a un maschio eterosessuale. Se vanno a una donna, ti indicherà una donna perché deve essere una donna, sì, non dai. Perché è una persona. Sì, sì. Altrimenti sì. Diceva molto meglio Pannella, non diceva la Bonino. La Bonino è la maschera di Pannella. Esatto. È il ventriloquo di Pannella, non dice Pannella perché deve dire una donna, non una persona. E tu bevi perché sei un coglione maschio. Dimmi la verità, che autonomia sta zitta da mesi. Che autonomia ha nei confronti di Pannella? Nulla, nessuna, la Bonino. No, non solo. Ma poi il problema è che un esponente di centrodestra deve dire un nome che vada bene al leader del centrodestra. Allora, mentre la Bonino verrà respinta sicuramente da Berlusconi, allora il nome di Muti è il mio personale suggerimento, venuto fuori per caso, perché lui riesca a sparigliare il campo avverso. Ma vediamo che succede. Vorrò vedere Bersani e Grillo dire no a Muti, quando hanno detto sì a Grasso e alla Boldrini. Perché Muti ha anche in più il vantaggio, oltre di essere considerato nel mondo un grande italiano, di essere fuori dai partiti, che vabbè, è la logica con cui oggi stiamo muovendo. Comunque, cambiando argomento, grazie Vittorio, oggi se un presidente della regione di centrodestra avesse nominato la sua segretaria, la bravissima Michela Sancheris, come diavolo si chiama, da Bergamo, assessore, anzi dov'era Vittorio, scusa, ci sei ancora? Concino, nata nel 78... nominata dopo che avevo parlato con Maroni, che ha speso una parola per chiedermi lui di fare la storia della cultura, poteva nominare qualunque grande. No, ma Crocetta ha nominato quella non lo sapevo. Al turismo. Sì, ma è di Bergamo, assessore al turismo. Beh, ne parliamo domani. Ciao Vittorio, ciao. Chi c'è qua? Nessun altro. Chi c'è? Antonio dalla provincia di Bologna. Un attimo, Vittorio, fatemi sentire Antonio velocemente, su. Pronto? Velocemente. Pronto? Velocemente. Io ho letto un tweet. Sì. Azzurra C. Sì. Finché quel bontempone di Feltri fa un pesce d'aprile, passi. Ma lo scherzo è bello quando dura poco. 2 aprile la Zanzara, Radio 24. Era un pesce. Ciao, a domani. Care italiane, parliamoci chiaro. Ho nominato il governo tecnico ed ha fallito. Ho indetto le elezioni e sono fallite. Ho nominato Bersani e ha fallito. Che bulite ancora da me? Se non si fosse capito, diciamocelo. Io non so che cazzo fare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma Parenzo, lo pagate voi per stare in trasmissione? Radio 24. La passione si sente.